sai, miliardario, la famiglia sua è miliardaria, c'è una fabbrica di produzione di impianti di soldatura ed è uno che non ha bisogno di soldi, non ha mai lavorato in vita sua, tra parentesi, vabbè, politica non se ne fa. Però io dico, uno che critica tutti gli altri, e tu sei invece degli altri, Italia di mutua, Romanco, fate un programma politico e non ti mettere a parlare male degli altri, visto che tu sei agli stessi livelli. Solo quello, io mi auguro che quelli che sono appresso a lui, non lui, che siano delle persone oneste. Che il movimento è così, non è così, non è così, non si può fare niente se è nato ricco, capito? Però poteva fregarsene, e invece io l'ho votato e spero che li mandi tutti a casa, questa vecchia classe politica, poi ne riparliamo. Ma io dico, Fabrizio, uno è all'altezza di fare le cose, ma lui non è all'altezza. Sì, infatti Berlusconi e Prodi sono all'altezza, sono 20 anni che hanno asfaltato, ok? Adesso spero che li asfalti lui. Poi parlate di donne di uccidere invece di vedere politica, ma non lo dirà tutti, tanto più perché mai ci sono robe. No, il discorso è nato dal fatto della sorveglianza, del lavoro di Gianluca. Ho detto, tutti questi problemi di sorveglianza, mi sono detto, sì, e aumenteranno anche di più con tutta la crisi che c'è in giro, la povertà che la gente inizia a rubare. Ma lì non si può formare neanche il governo, cioè già le guardie del corpo con la polizia sotto casa, capito? A Genova è in Costa Smeralda per le quattro, quindi. E io vado, va bene, ciao anche a Fabrizio. Non so qua, è quasi pronto a mangiare la qua roba. Su quella roba che vabbè, ci vogliono sentire per telefono, ok? A me sta dicendo qua. E io vabbè, dai, passa domani o quando vuoi, già lo sai dove ci sono. E domani magari che vanno chiamando, lo devo portare la radio di Massimiliano, che l'ho finita, però mi deve sostituire un microprocessore perché no, non ce l'ho, e lui invece ce l'ha. E quindi domani devo andare a Chiamonti quando esco al lavoro. Se ce la faccio passo, se no sappi che quella cosa è vecchia e qua, ok? Sì, va bene. Ok, lasciamo riprendere a Gianluca e poi a Fabrizio. Dai, cambiamo discorso perché la politica sono male, che se ne sta faremo, ognuno la vede diversamente. Fabri, va bene. Ciao Fabrizio, mi sentite bene tratto? Mi hai sentito anche a te, Gianluca, mi hai sentito. No, ero qua, stavo girando che ho mangiato una cosa, la radio su altre cose che sto facendo, poi girando e vi ho sentito sul baracchino e allora poi ho fatto la battuta, comunque vediamo come va. Perché come stiamo andando non si può andare tanto. Lasciamo andare come vogliono tanto, però già ho detto, peggio di così non possiamo andare in Italia, quindi va bene. Beh, io sto aspettando le pizze, se ce la fanno nella 8:30, anche io sono entrato qua e stavo mettendo a posto. E già tu, le prendi, vai. Della scheda CPU e quindi ho chiamato a Carlo e ce l'ha lui e domani glielo passo e me lo cambia. Per il resto sono riuscito a sbloccarlo, a fare tutto, da me funziona, tutto ok. Ho detto che la resistenza c'era da cambiare. Va bene, dai, sono anche un po' stanco. Va bene, non ci piace più per telefono, va bene. Ok, c'è che devo attenuarti un po', se no non riesco a ascoltarti qua. E poi devo risollevare quando parla Gianluca perché c'è tutto le fregne in chiuso. E questo è l'850, lo sto facendo andare, visto che non lo sto usando neanche questo. Te lo facciamo andare un po' in 27, tanto che è già stato memorizzato. Sto andando con l'MC80, ecco qua, sono arrivate le pizze. Vi saluto e ci sentiamo, se ci siete dopo, ciao anche a Fabrizio, tutti, ciao. A me belli per lui, amico, e la Lazio se fanno giocare con la Fiorentina. Vai Fabri. Fabri. Ah, io sto ascoltando, lavorando due cose su internet e poi me ne vado a Milano, ma appunto sul divano un attimino perché sono stanco, non sto recuperando questi giorni. 4 sonde temperatura, servizio di un trasmettere a testa, se interessa qualcuno. 4 sonde temperatura? 4 sonde temperatura e termistor, quindi sono quelle per la temperatura e te le trasmetto nel VHF 4, se ti interessa. No, cosa si tratta? Allora, sul plus militare ogni tanto trovi qualche affare, se qualcuno serve, qualcosa si trova. Per chi c'ha la stazione radio broadcasting, quando c'è il punto di ripetitore, se metti di lì e c'è l'allarme, ma noi qua poveri mortali no, cosa dovremmo fare? No, niente, no, sto dando un'occhiata, ecco, giusto ogni tanto do un'occhiatina per vedere un attimino, vintage, ecco qua, ogni tanto qualcosa si trova, sento ogni tanto, l'altra volta l'ho trovato un 440 a 100 euro, l'avete apposto, ogni tanto qualche affare si trova. Buongiorno, parlando di roba trovata, sono andato al mercatino delle Pucci, mi ho trovato 2002, due piatti 1002, messi male, 150 euro. Due piatti da discoteca 1002, con le testine Phantom. No, parliamo piatti di giradischi. Su Vintage, su eBay, qualcosa già si trova ogni tanto, ho visto qualcosa di carino. Anche da altre parti già si trova, la voglia di cercare, solo che in quest'ultimo periodo non ne ho voglia, però se trovi, se cerchi alla volta e trovi. Un mese di nave volevo, no vabbè sto scherzando, se no se ti fai prendere la pura, io c'era un periodo che giravo sempre su un bim, ma lo sai quanto in dose mangio bigliato, guarda la fiera, fermati qua, poi non te ne fai più niente, se inizia a accumulare. Lo so, però a volte c'era un periodo che mi sono preso un periodo che stavo sempre qui riparando facendo, preso un periodo, ho detto beh, mi è andato a comprare un po' di apparecchiature, le prime le facevo arrivare, le riparavo e me le ho rivendute, pare che ho comprato una radio con quella somma. Lo sai, visto che tu hai un mezzo laboratorio, almeno sai impiantato, su Radio Suplus oppure un SRL, se mai entrato, ci sono delle attrezzature da laboratorio a prezzi regalati, ci sono apparati da ripristinare, apparati revisionati e collaudati e garantiti, ma a prezzi proprio allucinati. Radio Suplus. Radio Suplus SRL, mi ho fatto arrivare una bella antenna militare che fa 80-110 per servire, se tu la vedevi già l'ha vista Claudio e Marco Scorpio e anche Antonio l'ha vista, è una cosa spettacolare, costruzione militare, tutta con la norma militare, tu devi vedere, l'ho pagata 40 euro più trasporti, nuova di pacca, col palo, tutto in estable, improvvisata orizzontale e verticale, tutto in alluminio anodizzato, verde militare con tutti i PL a norme militari, i cavi a norme militari e poi mi ha dato il palo a innesto sul piantone dove è fissata l'antenna che lo puoi montare in orizzontale verticale in resina, non in resina, in PVC dovrebbe essere, tutto è innesto a baionetta, è una cosa allucinante, per 40 euro più 8 euro di trasporto. Lo so, però non ti credo che siano baratti quel sito, adesso ci vado, vabbè, sono già andato, sono troppo surplus, cioè troppa parecchia, dipende da cosa serve, alle volte si trova qualcosa, vabbè, qualcosa alle volte si trova, però questa roba è troppo vecchia. Vabbè, c'è cosa vecchia, anche cosa più recente, ho visto belli apparati, vabbè se ti piace il genere, poi ci sono analizzatori di spettro, oscilloscopi, alimentatori di laboratorio, strumenti di diagnosi, c'è di tutto, certo non saranno gli ultimi ritrovati dalla tecnica, però se uno vuole iniziare a fare qualche lavorichino, già ce n'è di roba, e con qualche spiccioletto riesce a farti una bella stazione. La roba sul plus però. Vediamo accessori, no? A parte radio non c'è niente interessante, accessori c'è un carico più pizzo, un tasto telegrafico che me lo devo comprare, ma non questo. Sonda, qualche cosa c'è, bisogna vedere il microfono in carne, dobbiamo vedere cosa devo fare, qualcosa, accessori radio, vediamo. No, guarda, c'è tutto strumenti da laboratorio, e lì ce ne sono centinaia di strumenti di tutti i generi. Ho fatto pizia, non mi voglio. Certo, Gianlu. Non sto parlando io, no? Aspetta, io devo sollevare le reti. non riesco a capire, perché se Fabrizio è vicinissimo questa radio va in saturazione. Fabrizio, non mi voglio o me? Ma chi è altro mio? Sera a tutti. Ah, altro mi va il coso, Gianluca, infatti ho detto non riesco a sentirti, perché c'è la tua idea in chiusa, no? Infatti Gianluca ha diverso la voce. Buonasera, buonasera. Sei ormai si sente in dito. Ma vabbè, questi giorni già sta entrando io, non tutti i giorni, ma quasi tutti, dai. Va. Non so se mi sente Gianluca. Ascolto, non si somiglia più il tuo. Ciao, come no? Ascolto bene, bene, tranquillo. Io ti sento bene, bene, Gianluca. Ti hai mai conosciuto chi sono, sì? Sì, però non mi viene il nome, la Feroce. No, non me lo so. Eia, eia, io sì. Scappa, anche se c'è stato un po' di tempo, già sono sempre io. Come stai, sto bene? Sto bene, sto bene. Sapi, con cosa stavi uscendo tu poco fa? Io? Eia. Col baracchino, perché come sto uscendo male? No, sto uscendo benissimo. Baracchino, che cosa è che microfono? Il microfono è non c'è più la scritta sopra, un Lafayette, però la scritta non c'è più, era un gavo l'avevo messo a posto. Ma la base, la tavola come? Sì, la tavola, la tavola. Ma la tavola sarebbe la chiara, diciamo per quel poco che posso dire con questo apparato. Dimmi una cosa, negli esami niente si sa se li fanno a maggio. No, non lo so se lo fanno a verità, credo che per le due sezioni sono sempre lì. Inizia in chiama, inizia a dare gli esami e vedi di farcela questa volta. Ah, io penso un pezzo non essere andato, come sei andato tu e coso, a San Napoli, e Antonio. Non avevo niente da studiare, cioè non avevo studiato, non l'ho preparato, però sicuramente forse qualcosa di più l'avrei fatto. Mi sente a fianco a me che ci ha messo il Grodegak e ne avevo una destra, una sinistra, uno più tonto dell'altro, cacchio, uno ha copiato bene, quello che sembrava più intelligente ha copiato male, cosa ti posso dire? E infatti alla seconda poi è andato, poi non lo so da chi ha copiato la seconda volta. Sì, non vuole che adesso il terzo giro che fanno, cacchio, sia l'offio, perché così è successo una volta che erano passati quasi tutti, era ridicolo l'esame, poi gli altri tre passati erano molto più difficili. Magari il livello io più o meno secondo me, io sono andato due volte, secondo me il livello è sempre lì, è sempre lì, quello lì è sempre lì la difficoltà, più o meno Quando sono andato con te non era difficile, difficile, la prima volta che sono andato, cacchio, mi dissi che era difficile, c'erano domande molto molto tecniche di circuito e cose del genere. Infatti bisogna vedere, però io non l'ho provato, l'ultimo che ho dato, il primo era andato così, il secondo, il ragazzo, a questo punto ce l'abbiamo, noi avevamo pagato una barca di soldi, vai, vai e sale, ti devi provare, anche se non passi, vai, non costa niente scendere a Cagliari, cioè, è come fare una passeggiata. Ehi, vabbè, ma devo ripassare, sto leggendo, rileggendo, ma non è che si è preparato assolutamente, sarò al 10% di quello che avevo la seconda volta che sono andato. La seconda volta avevo studiato bene, purtroppo quelle domande che erano non facevano parte del mio studio, dai, la maggior parte, per cui mi è andata male. L'ultima volta quando c'eri tu ero quasi sicuro di essere passato, ma ho fottuto quella domanda di merda che metto tra bocchetto e poi con lo scemo vedere che c'è andata la risposta. Metti così, ti dico di quello scemo dell'antenna Marconi, Marconiano, metti questo, metti quello, sono sicuro che era cosiddetto tecnico, che dici che lui era tecnico. E io quella l'ho fatta giusta, quella di Marconi. Ma il fatto cos'è? Che poi anche quell'altro, l'altra volta che è passato, quello della commissione che parlava, raccontava, io me l'ascoltavo, dite, ma ci dicendo un bel di stupidaggini, perché infatti mi è andata a torretta, ne ha fatto un paio in coda della torretta, cacco, e ci è sceso in vasi, dovevi copiare tutto, fidarti, una volta che fai bingo e ci provi. Vabbè, la faccio pubblica. Ok, vai Gianlu, ripetita. Sì, sono da essere alcuni che sono venuti nella faccia di culo. Ma te lo domanda, come mai così, ma lui parla con il prodotto così da che vuole durare la dritta, no? Qualche cosa fino a questo, ma tira uno per la patente, per la macchina. Io cambio baracchino perché con questo cazzo non c'ho problemi, devo stare a aprire, chiudere le freghenze, aspettate un secondo, continuate, cambio baracchino. Cambia, aspetta che io faccio tutto più. Ma Gianluca, non sto uscendo bene mi con quel baracchino, secondo me non sto uscendo bene. Break. Avanti. Buonasera a todos, nella stazione doppio rum che vi supercordializza. Avanti Fabrizio, dai, buonasera. Ciao Gianni, come stai usando ecco? Ciao Gianni, perché ho attaccato l'S9 per farlo scaldare un po'. Hai attaccato? L'S9. Ho capito. No, dove collego? Sono io Gianluca e Roberto che sta cambiando apparecchio. Gianluca, mi pare che stia uscendo male di radio, ti ho detto da poco fa. Guarda adesso Fabrizio, ciao Gianni, mi hai sentito? Ciao Gianluca. Ciao Gianluca, mi hai sentito anche a te. Avanti. Sono rientrato con la tua baracchina, vai. Ciao Robe, anche tu scambio fatto. No, quando c'era Gianluca dovevo, cioè te, c'ho troppo forte a coso, Fabrizio arriva troppo forte e devo attenuarlo, per cui poi devo risollevare le referenze quando parla Gianluca. Allora ho detto bene, c'ho un po' in un angolino questo baracchino, un po' scomodo, appena ho detto dai, ritorniamo con le vecchie solite radio. E io le ho fatte girare tutte stasera, tutte quante. E io. Che differenza ha rotto di Gianluca a lunga distanza con questo? Fai un attimo per cambiare la tua radio, adesso non so se Fabrizio mi ascolta meglio. Fammi un passaggio adesso con me. Questo è il solito 123 prova radio, canale 12, 27, 105 la frequenza. Ma benissimo, ti sto ascoltando anche meglio, cambia la tua radio per adesso. Guarda Fabrizio se è migliorata la situazione. Sì, no, ma anche poco fa, però c'è qualcosa, non lo so, io ti sentivo troppo, sei un po' strappato, non so, ero io o Robè oppure è così. No, no, ho sentito tipo cracchiato, l'ho sentito anche io poco fa, infatti a momenti io pensavo fosse le Fegheni, ma era anche lui, appena mi ha detto così, tu ho detto, allora non so solo io, era anche Fabrizio che lo sentiva un po' disturbato. Vedi un po' come un attimino Roberto come il mio segnale e anche te Fabrizio. Sì, il segnale tu oltre 9.10 qua, 9.15, 6 radio 5. Ok, dai, ha migliorato qualcosa allora. La radio è comprensibile, devo abbassare il mic, io cosa devo fare? O faccio questo passaggio così, ecco, col processore. A parlare, aspetta, l'ho acceso, così vediamo un pochettino se lo fa qualcosa di più preciso, vai. Ecco, 1, 2, 3, prova, Michelin al massimo, amplificazione poco meno di un quarto, però con questo passaggio qui faccio questo passaggio, ecco, ho attaccato il, diciamo così, il processore, il doppio modulatore in questo caso. Puoi teoricamente sollevare un po' il mic da parte mia almeno. Elevare il processore, fare lavorare, fare così, allora fare così magari, aumentare ancora, diciamo, metà del potenziometro. No, differenze di livello mic non ne sto notando, sempre uguale lo vedo io. Niente, anche così non si sente nulla. No, così ha cambiato, un po' più forte, sì. Ecco, io, ok. Fabrizio, io non so se lo devo abbassare o mettere il doppio modulatore, dai, tipo un processore. Sì, no, non è la cosa, sento che ogni tanto tendi a strappare ogni tanto, però cioè, vabbè, tendi, c'è qualcosa, non riesco a capire cosa, però. Tengo a strappare così, in poche parole, mi fa capire che manca la modulazione, si sentono le parole strappate. Non è chiara. Ho capito, adesso invece va bene, oppure io stavo facendo girare un pochettino questo baracchinetto, ma se ci sono problemi ad ascoltarmi metto l'altro. Ma non lo so, prova per curiosità con l'altro, così ce ne rendiamo conto quale è migliore, quale sia meglio. migliore sicuramente l'altro, però dai, l'attacco. Fabri. Dimmi. Salutato, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, anche a te. Ciao Bombo. Ci sono, ciao Bombo. Ciao Bombolino, se mi ascolti. Cambio. Guarda Fabrizio, com'è questa radio? Sì, no, più o meno qua, vai bene, non è che andavi male, male, voglio dire, sono io che magari a volte vai bene, fai un passaggio. Questa qui è quella che uso di solito, sento un poco, vediamo un poco se ci sono problemi, se no ne uso un'altra, dopo ne uso un'altra ancora, vediamo un po', dai, facciamo girare anche questa radio, così vediamo un pochettino, dai. Sì, no, vabbè, mi dà l'impressione che intanto tende ad aumentare e poi abbassare la modulazione, su, non lo so. Poi io vi saluto che devo chiudere qua, devo chiudere. Salutoni a tutti, mi ha fatto piacere, poi già ci sentiamo, dai. Sì, ciao Fabrizio, ci sentiamo, dai. Cava. Buonas noches. Ciao Fabri, ben sentito, fatti sentire spesso, già lo sai che sei sempre bene, ben accetto, dai, vai già lui. Ciao Fabrizio, alla prossima, buon proseguimento di serata, ci sentiremo a tempi migliori, ciao ciao. Fabri, ciao, ci sentiamo. Vabbè, pure qualche giorno faccio un freno spavento, ragazzi, un segnalone. A chi? Capito, ti faccio prendere uno spavento, cioè? Sì, se a casa tua arriverà un segnalone di quelli micidiali. Perché se vuoi mettere un'antenna nuova, guarda stai facendo. No, tutta la metto qua. Adesso vediamo, guarda. La metto in un altro posto, la metto. Lì stai tranquillo che è in base. Non penso che in pochi riescino a passare. Non so, che sarà me perché? Sto vediamo. Quando ci sto? Ehi, va bene, dai, quando ce l'avrai verificheremo. Ok, Fabrizio, sto dicendo. Mi scusa Fabrizio, Gianluca cos'era? Y con l'apparato l'ultimo? Sì, questo qua sì, Y. E tra l'altro che cos'era il Prisoner? Cos'è? No, l'altro era un Magnum con carne più 3. Questo lì sono quello MD200. No, no, sta andando bene con tutti e due. Anche l'altro andava bene. Cioè Fabrizio ti ha detto che secondo lui andava un pochettino così, però la parte mia la modulazione era buona. Questo naturalmente spinge un pochettino di più come modulazione, però l'altro era un po' più lineare. Vabbè, erano due cose diverse. Quello è più adatto per la M, magari questo un po' di meno. Senz'altro, ma io già ho capito cosa fare. Ok, se vediamo qua, e dopo facciamo girare un pochettino anche là. Gianni? Anche per me sta riuscendo bene, boh. Deve essere magari in qualche momento che non ho ascoltato bene, boh, che ti ha sentito con questi strappi alla radio. No, poi non ha più fatto. No, magari ora troppo sollevato io, comunque sia, vedi. Adesso io mi accorgo qua che. Ok. Vedi? Posso mettere così tranquillamente e mi ascoltate benissimo ugualmente. Sì, tranquillamente. Anche perché la sera non c'è bisogno di mettere queste amplificazioni. Fa un po' di salotto lì. Anche tu stai usando le 9 già. Oh, ci avete due microfoni diversi uno dall'altro. Io c'ho il normale, io il microfono normale, quello originale. E lui cosa ci aveva sulle 9? Lui aveva il stabile più 3. Ah, infatti la differenza si nota nelle tonalità basse. Allora, a te le proprio le basse profonde ti mancano con quel microfono, lui invece ce le aveva. C'aveva un microfono amplificato, io c'ho normale. No, va bene, la radio è chiara, non sto dicendo niente, però sto notando delle differenze, pur avendo lo stesso apparato, un microfono ti cambia completamente la tonalità. E non è proprio lo stesso, io c'ho il 980, lui c'è il 69. Vabbè, ma sono similari come marche, eh? struttura. Sono tutte due della Magno. Oh, questa radio è bella, è piacevole già, non ti posso dire niente, è bella chiara, pulita, sembra equalizzata addirittura. No, è l'apparecchio che c'ha il top gun, che sarebbe un processore da sole. Ecco, questo top gun abbiamo in la radio, come può fare il processore per dire per una radio amatoriale, per intenderci. Avanti Luca. No, se vuoi te lo faccio sentire anche con un altro microfono normale, non proprio normale, ma diciamo che è un microfono non amplificato. Adesso comodo. Stavi innescando comunque Gianluca. Come di quel reme oggi, voi non ce l'avete? Ho qua niente. Si sente proprio forte, vedi, tipo qualche disturbo atmosferico. Se non è che ce l'hai vicino tu, magari qualcosa, qualche apparecchiatura, qualche cosa, io qua non sento niente. Io leggermente. Guarda questa roba qua, fare roba è com'è, questo microfono, un mic normale. Devo parlare un attimo. Ecco, questo è un Astatic. Astatic fa male. Allora, qua ha molta presenza di tonalità medio-basse, medie, leggermente carente di acuti. È un microfono normale, vedi, anche io posso mettere questa situazione come stavo usando Gianni, però è un microfono normale, questo è perfetto. No, però stiamo parlando di pignolerie, le radio sono tutte chiare, perfette, niente da dire, però se vuoi dirti difetti tecnici, misurabili e strumentalmente, te li sto dicendo, poi accettate quello che volete. No, insomma, si accetta, non è che stiamo dicendo nulla. Roberto c'ha proprio l'apparecchio per guardare le modulazioni, per vedere come sono, se sono bassi, acuti, eccetera, eccetera. Quando tu parli, l'apparecchio funziona, controlla, capito? C'è l'equalizzatore grafico, no, capito? È analizzatore di spettro, non è equalizzatore, è analizzatore di spettro e poi c'è un indicatore di livello per darmi dei picchi di cura. Questo è un altro ancora Roberto, ma questo qua bisogna leggermente di scaldare appena. Era accesa, ma io adesso l'avevo rispenta per non farmi dentro di frequenza con le cuffie, poi vediamo come va. No, questo è il cupo, potenzialità acute e assenti, un pochettino per l'utile di medi acuti, poi dai medi ai medio bassi inizia a salire come livello, però acuti e assenti. O c'è un microfono molto vecchio con la capsula leggermente deteriorata, sembra che stai parlando con un frattore tra davanti alla bocca. No, fallo scaldare Roberto, aspetta un attimino che controllo un attimino una cosa qua. Ok, dai. Perfetto, allora 1, 2, 3, prova. Benissimo. Vediamo, dai, questo è un K, capito Roberto? No, qua è chiuso, ma non è. Cos'è? Scorsa santa è questo? Sì. Ma aspetta, processore, vediamo un poco, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Allora. 1, 2, 3, prova. E dove scaldare il robot questa qua? Ma io sto pensando, siccome lo stesso problema l'ha avuto Daniele sull'RC60, gli è caduto, si è sbattuto e si è girata leggermente la capsula microfonica, si è leggermente girata, siccome è abbastanza direttiva la capsula dell'RC60 e non riusciva a dare le tonalità acute, verifica quello tu. Guarda, adesso stavo parlando distante con la bocca girata, adesso sono praticamente dritto verso il microfono. Non cambia niente. No, già lui, dovrebbe uscire molto meglio quel tipo di apparato. Se hai presente io sto utilizzando la stessa cosa con 60, non so se mi ascoltate il cupo, però io ho sentito anche altri con questo tipo di apparati e sicuramente non sono cupi. Deve scaldare, guarda che Gianluca c'è bene, arriva una cannonata, sempre così. Io mi sto riferendo in questo momento, poi se lui arriva sempre bene è un altro discorso. Oggi in questo momento è cupo. Sì, sta uscendo leggermente cupo, lo sento anch'io nella modulazione qua, con le cuffie. Questo è senza processore, questo è con processore. Sì, sei cupo adesso. adesso, ma probabilmente il problema è per scaldare. Sì, era fredda era, dai, facciamola andare, non perché tocco le potenze di nulla, perché l'ho già visto. Per andare bene questa qua io volevo essere sempre accesa un quarto d'ora così, standby, devo commutare. Vediamo un poco come va, dai. Gianlu, scusa un attimino, tu hai detto ho il processore senza, io qua di fretta non ne ho sentito, fammelo sentire di nuovo. Guarda, lo sento io, così c'è il processore e così non c'è il processore, così c'è il processore e così non c'è il processore. Lo sento dalle cuffie, Roberto. Sì, si è sentito, ma non è evidentissimo comunque la cosa. Si sente la differenza, ma non è evidente come... Sì, allora, ti faccio la prova io. Questo è col processore inserito, 1, 2, 3, prova radio, e questo è senza processore inserito. Inserisco il processore, 1, 2, 3, prova radio. Una... Tu Fabri, scusa, e a lui non ce l'hai questo stacco, probabilmente non lo so, come hai detto tu, deve scaldare, io ti dico che come attacco funziona, a parte microfonica, se mi pare della potenza, quando scalda te ne dà un pochettino di più. Dai, ok, facciamo scaldare dopo vediamo un pochettino. Guarda bene, cos'è, un 14 o un 44? No, un 14, come sta rispondendo adesso? Sta migliorando qualcosa? Io non ne ho sentito differenza. Dimmi una cosa, il Mickey Gain in che posizione C ce l'hai tu? Il Mickey Gain è al massimo. Prova a abbassare la pena appena tu per parlare di nuovo, magari mettete un po' più vicino, perché normalmente quelli si mettono alla posizione C. Ah, ecco, ho capito, quindi tu dici di metterlo leggermente così un po' indietro. Mi devo migliorare. Ecco, leggermente così, non un pochettino più sotto. Mettilo normalmente sul C, noi almeno tutti quelli che ce l'hanno lo mettono sul C. Avvicinati un po' di più al microfono e prova a parlare, vediamo se cambia anche la modulazione. No, ma io vabbè, sto parlando sempre con, come si dice, con la distanza sempre di un braccio. No, ma dico, abbassando il Mickey Gain, prova a avvicinarti un pochettino, mettiti 10 cm più vicino, vediamo se ti cambia anche le tonalità. Ok, vieni a vedere un po', 1, 2, 3 prova. Ma quasi impercettibile, diciamo, non ha cambiato quasi niente, rimetti come era prima e vediamo un po'. 1, 2, 3 prova, ok. Così siamo un attimino... Sola, 1, 2, 3 prova. Vedi a vedere un poco? Ma non è che stai spingendo troppo con la potenza, tu invece ti sta mangiando la modulazione perché sei troppo forte. Prova a vedere, ma non lo sento che sta strappando così più di tanto. Ok, l'ho abbassato troppo. Ok, 1, 2, 3 prova, com'è adesso? No, quasi niente, non è cambiato niente, non è questione di potenza comunque. Come è abbassato naturalmente il segnale, si è abbassato di lì, si abbassava il livello del segnale, automaticamente ti abbassavi anche la radio, però le tonalità sono rimaste invariate, quindi non è problema di potenza. Io verificherei bene la cosa del microfono, perché se il primo funzionava bene, non vorrei che magari avresti preso qualche colpo, qualcosa, siccome è abbastanza, come ho detto prima, direttiva la capsula microfonica, può darsi pure che si sia leggermente spostata, perché Daniele l'ha fatto uscire di testa, poi Claudio si è intervenuto, lui ha detto guardati la capsula della rovesciata, infatti gli mangiamo le tonalità acute. Aspetta, secondo me Robè ha migliorato di modulazione, come lui ha abbassato il microfono, ha migliorato di modulazione notevolmente, non è più cupo come era prima. Poi secondo me forse era troppo, o ha abbassato troppo la potenza, comunque per me è lui adesso, per me è come prima, dai, prova Gianluca. Stavo vedendo io adesso, vedete, sta saldando di più questa radio, vediamo un po', ora, ripeto, io sto sempre girando, perché sto facendo cose, adesso mi sono fermato in direzione del mic. Ma tu come ti è sempre uguale la modulazione, perché da tutte le parti quel microfono lì c'ha le entrate, quindi... lo senti bene a tutte le parti. Ah, va bene. Allora, vediamo un pochettino. Ok, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Sembra che già si sta un pochettino stabilizzando. Provo anche a fare questo giochettino, magari c'è qualche cosettino di falso contatto, ecco. No, no, Gianluca. No, no, Gianluca. Adesso sta andando via. C'è il K, va bene. Permessi tu adesso. Gianluca, fai una prova, metti l'Y e lo confrontiamo uno con l'altro. C'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa, c'è come, non ti aspetta. A me, Robo, io l'ascolto, dicono, per me è lui, è come al solito. Buono, buono. Aspetta un attimo. Ehi, a chi sono, dai? Questo è l'Y, YZ. Allora, questo qui è un po' più lineare per la modulazione, anche questo manca un pochettino di acuti, però è meno predominante la tonalità bassa e medio-bassa dell'altro. L'altro ti dava proprio l'effetto tipo panettone, il diagramma della modulazione era tipo panettone, molto piena di tonalità medie e medio-basse. Qua è un po' più basse, ce l'hai leggermente meno esaltate di prima, ed è un po' più piacevole come modulazione. Solo quello ti devo dire. Chiare tutti e due, però questa è più chiara, più naturale. Ok, perfetto, lo so, l'altro vale, non lo so, vedi un pochettino, fare una prova con un altro microfono, sempre di quella tipo di linea, e vedere se il problema è dovuto al microfono o dall'apparato. Io ti ascoltavo molto meglio, secondo me, col K l'ultima volta che ti sentivo. Comunque non ti preoccupare, vai benissimo, avrebbero voluto un po' di gente con la modulazione, però confrontato con altri tipi di apparati simili, diciamo tu sei leggermente cupo. Ho capito, invece questa è più chiara. A me piace più questa è più fedele alla realtà, l'altra era proprio così, parlavi molto, come che c'è un fazzoletto davanti alla bocca. Tappa di roccia, va bene. Avanti Gianni. Vabbè dai. Magari mi sta sugli strumenti diverso, però a orecchio Gianluca per me vai benissimo. Non c'è nessun problema. Come ha scaldato la radio, ha abbassato il volume del mic gain, si è andato bene. C'era qualcun altro che voleva entrare, avanti, siamo sul canale 12, 27, 7, 105, avanti. Ehi, appunto a zero. Buonasera a tutti. Anche a me piace più questa. Oh, Gianluca, Roberto e Gianni, ma ci vediamo bulldozer. E la riprendo io, ricordiamoci che c'è anche Bombolino che è in ascolto e ne frequenta anche lui. Ciao Massimiliano, ben entrato, ben sentito, come sempre ti rilancio subito adesso Roberto e fa girare. Sì, ciao Massimiliano, ben sentito, infatti c'è anche Antonio Bombolo, facciamo riprendere, Santo riprendi per Massimiliano. Via Gamba, buonasera Massimiliano. Ehi, ciao Anto, buonasera, ben ascoltato. Io non sapevo che c'era, quindi ti saluto, buonasera. Buonasera. E niente, dai, siamo qua. Questa bene va la modulazione, Vabbè. La modulazione si l'ecco che non mi piace, il cavallino, poi decidi tu, a me non piacciono gli ecco. Ehi, vabbè, è giusto appena, dai. A modulare, io vi ascolto. Ok, vabbè, continua. Ehi, a K. Ok, no, l'ho detto, in città non servono a niente, secondo me. Ecco, sono solo scelte vostre, se le volete usare. A me piacciono le modulazioni tranquille, casalecce e pulite, senza manipolazioni di alcun tipo, dai. Poi decidete voi. Avanti di nuovo, Massimiliano. Ma questa è la radio, mica è... io l'ho messa io. Cioè, volendo la posso togliere, ecco. Così mi sa mai che non c'è più, no? Giusto? Sì, e se facete vicino dove sei? Alla giostra, a Bari, un bel biglietto vicino. Come tu bel biglietto vicino? No, c'è mia moglie e mia figlia. Sto scherzando, infatti vedo, sta amplificando molto. Sento giovane gente, voci di sottofondo, volevo dire. Ci sono io, qui sono Fantasma, buonasera. Qui è, dove? Ciao, Eugenio, anche questa è una bella modulazione. Ma ti credo, verrà da Massimiliano che radio. Buonasera Eugenio. Ehi, tante cosce calde a tutti, buonasera. Che radio è questa oggi? Come? Che radio è? Che radio è cosa, che baracchino sto usando? È tipo il baracchino che microfono. Allora, il baracchino è un, cos'è? Un Galaxy Uranus. E la, il microfono è uno ZC, l'MBP5. Ho ascoltato benissimo, anche buono di segnale, perfetto, dai, niente da dire. Ok, vai Gianni, doppio rum. Ciao Eugenio, ben sentito, pugna a capo. Ciao già, buona sacchi a te. Si abbina molto con l'MBP5, sembra una modulazione naturale proprio. Mira, Pigrino, buonasera, ciao Eugenio. Buona sacchi a te. No, io non lo so, non mi sono mai sentito. Se lo avete voi andate da Mattesi, dai, vi portate ad ascoltarci. Ehi, vai Gianlu. Ehi, no, lo sento benissimo io. Perfetto. Questo è il K di nuovo. No, no, questo è sempre quello lì, Robert. Sì. Questo è sempre lo Yabala. Ha sempre il rumore del 60, block. Sì, già lo fa. Come ti si chiama il microfono? MD200. No, prima è tu Yabala, mi pare. Yabala, cos'è questo Yabala? Yabala è stato Yabala, che per gli hai su. Non te l'ho capito. Yabala Badu, il microfono definito. Credo che fosse un tipo di microfono, capito? Non ti stavo seguendo, là. E vabbè, a quest'ora è comprensibile che uno non connetta al 100%. Ciao Gianni. All'inizio viale di Via Pazzetta. Oh, io vi lascio, arrivo a Pazzetta, vi saluto a tutti. Ciao Massimiliano. Ciao ciao. Grazie, a domani mangiamo, mi raccomando. Sì, fammelo squillo. Massimiliano, domani mattina. Ehi, ti aiuto a fare uno squillo. Ehi. Tu sul presto, me. Hai capito, non ti metto il problema. No, è che domani devo lavorare. Sono chiamato domani e sto lavorando, però esco presto. Beh, non ti metto il problema. Guarda, finisci, fai uno squillo, ci vediamo. E vediamo, là. Buonasera. Ehi, ciao Gianluca, buonasera a tutti, eh. Ciao ciao Robert. Ma Massimiliano. Ok. Avanco Robert. Sì, allora Gianni, adesso stiamo parlando del microfono. Sai quello sul microfono che ha fatto un bel giro di mano? Quello di Maestrale, il Red Devil. Sì. L'ho avuto anch'io col microfono. Vediamo lo rosso. Funzionava bene quel microfono. Dice che aveva anche l'antidisturbo, invece quando l'ho messo in macchina, io l'ho preso proprio per la macchina col microfono, l'ho messo in macchina e dice che sentivano l'aria e tutto quanto, e dice la sito che aveva l'antidisturbo all'interno che lo faceva sentire rumori esterni. Io vabbè, l'ho sentito sempre in postazione fissa e posso dire che già funzionava bene. Ok, e cambiando sempre il discorso di cosa, di quel microfono che è passato anche di mano a Mario Masser. Che fine ha fatto Mario Masser? Nessuno l'ha più sentito. No, negativo. Se riesco a telefonarlo, se c'ha sempre quel numero attivo lo chiamo per vedere, ma fa parecchio che non lo senti in bocca. Non lo so che fine ha fatto, io l'ultima volta l'ho vista a Porto Torres. E mi ha detto che si doveva prendere una barca nuova, con di quelle tipo pilottine così, che c'ha anche la cuccetta per dormire dentro. I gobli, quelli si chiamano gobli. Gobli, sono quelli belli. I gobli. I gobli è una marca che fa pilottine pure, non si chiamano pilottine. No. Come si chiama? Configurazione di barca è una pilottina, quella Gobbi produce le pilottine che fa la base, gli scrap, tutte quante, cioè sono 10.000 di marchi, però la tipologia di barca è pilottina. Per me quella di Novico si chiamava Sessa. Sì, la fa la Sessa, la Benetto, Giano, ce ne sono tante, la mia è un Tullio Abbate, mio fratello c'ha una Geno. Lui dice che vabbè, l'ho trovato l'estate, stava dormendo in gommone, poi ha detto che si devo farlo prendere questa pilottina, boh. Non so più che fine abbia fatto. Può darsi che si sia anche allontanato da qua, non lo so. Non lo so, era venuto vicino a me in officina, mi ha chiesto un attrezzo che stava facendo dei lavori vicino a questo video e gli mancava un attrezzo e gliel'ho prestato, ma stiamo parlando verso ottobre-novembre, da allora non l'ho più visto. Non l'ho più visto nemmeno io. Prima entravo ogni tanto, ma adesso mi pare che a casa sua non ci sia più. Ma la terra ancora c'è di dove abita lui? All'inizio via Baldetta, nessuno. Sì che c'è ancora l'antenna, dimmi io lì. Ho detto, chi è che di voi abita all'inizio via Baldetta? Ma no, non siamo noi, non l'abbiamo attore, quello lì che abita via Baldetta. Quello che siamo di antenna. E invece al chilometro, come si finisce il chilometro, si gira a destra. Al chilometro è un vecchio CB che non modula più. Ah, ho capito. Ma è morto quello lì già? No, non è morto. Allora, mi pare che sia di pinguino quella lì. Ma lui sta dicendo quella cosa vicino all'agraria, mi... Coso, non è passero, per me è un passero, non è morto. Ha detto al chilometro, non vicino all'agraria, al chilometro è dove ci sono le luci gialle, il problema. Non è di fronte di lì, lui non è dietro le luci gialle, la stazione di Coso. È vicino all'agraria, dai, e poi giri a destra, uscendo dal chilometro. Allora, il chilometro è una cosa, dove sono le luci gialle, dove c'è il rifornitore, di fronte al rifornitore c'è quell'antenna lì. Sai, c'è non quella. Quella e più ce n'è una quando passi l'agraria. Quando passi l'agraria giri a destra, che c'è la rotatoria, e lì c'è una casa, mi sembra verde, con antenne lungo. Quella era di passero, è morto. Facciamo un sacco, ce l'aveva almeno un sacco di attrezzature già. Era uno di amatore. E che fine hanno fatto tutte le attrezzature? Quella c'ha fisi. Non lo so, non te lo so dire, perché non è che con passero avessi molti contatti. Sì, ci parlavo ogni tanto, ma entrava poco, capito? Non è che più con Gio Maria che era compare che con lui. Lo sapevo, Gio Maria era compare di quello lì. Ah, io l'ho conosciuto un pochettino all'inizio, per questo diventava una persona in gamba, era poverino, diciamo. Era anzianotto comunque, lo sapevo, no? Diceva sempre di abbassare il microfono, di parlare a voce bassa, che non c'è bisogno di gridare, tutte queste cose qua. Però è quello stesso già in gamba, bravissima persona, gentile, squisita, Emanuele, te lo ricordi? Sì, Emanuele, vabbè. Io qua addirittura ci passavo da lì, perché lo metto a muro, non l'ho più visto, veniva qua sempre, il colpo non si è più visto. Poi dice che era passato un suo amico all'ospedale, l'aveva chiamato e cose, gli aveva detto che era lì ricoverato. E è morto così, Giulio è andato a cercarlo e alla fine gli ha detto che era morto. Purtroppo è la fine che facciamo tutti, dai. Poverino, era sempre disponibile, accompagnava i nipotini a scuola, poi passava da Giulio, facevano colazione, e sempre solito 30 ogni mattina lui portava il nipote. Non so, poi a me mi colpiva per la calma, la tranquillità, non l'ho mai visto a voci, c'è sempre una persona delicata parlando, sembrava il Papa molte volte, diceva tu vai bene a leggere la messa, Maria, sempre un tono di voce rilassato, no? Cioè è una persona, mi è rimasta impressa per quello. Mi pare si chiamasse Padre Pio di nome attivo, una cosa del genere, adesso non mi ricordo, però Giulio, ma cosa, come si chiamava? Adesso non mi viene il nome in attivo, però va qualche cosa della curia. Ah, era il barbiere di Siviglia, o sbaglio? No, non era lui il barbiere di Siviglia. Lui era... Ma se c'è Giulio l'ascolto, già lo sa. Ho capito, adesso non mi viene neanche a me, il barile civile era un altro, amico loro stesso, si chiamava e... ce l'ho scritto, c'è l'elenco con tutti i nomi di quelli che avevo collegato, c'è da qualche parte conservato. Si chiamava, tipo roba di chiesa, mio nome di chiesa, cioè, ma va in gamba, veramente una brava persona, di quelle che ti rimangono impresse. Ok, vai Gianluca. Ma non per caso Mario Mao? No, Mario Mao è il presidente della Cina, così diceva lui, io sono il presidente della Cina. No, io ho sentito parlare così, però no, di questo signore no, non ho mai sentito parlare, la verità, sicuramente era un periodo che io non c'ero. Ragazzi, ci sentiamo dopo che la pizza mi sta aspettando, ciao a tutti, a dopo. Buonanotte, cioè a dopo, mi mangio la pizza e seguro in treni. Scusa, non se me no. Carica! Mangiate la caffè da parte mia. Ciao Roger, alla prossimina, ci sentiamo. Ciao, a dopo. Vabbè, ho parlato sopra Eugenio. Ciao Roger, ci sentiamo alle prossime, anche io rimango un pochettino, poi chiudo. Ciao, ciao. Raga, guarda, io oggi ho mangiato queste polpette, mi sono restate sullo stomaco. Oh, meno male che col malo si sono risolto, eh. Casa. Aspetta che diciamo già. Ma diciamo, vai avanti Roberto. Cosa detto col Malox? Ma più forte del Malox lo serve, cioè proprio quando stai male male c'è il Gabbis, secondo me, grazie a Dio sono un po' che non è, più di un anno, un paio di anni che non ne prendo, ma quella era l'unica cosa che mi faceva bene quando, perché molte volte neanche il Malox ti basta. A volte io lo sai cosa faccio, prendo prima il latte, perché mi cessa proprio il bruciore, quando si ha bruciore di stomaco il latte ti fa come la mano di Dio, l'hai mai provato? No, io che non bevo latte da quando c'ho, che sono entrato elementare, 6 anni, l'ultima volta che agivo il durulare. Ma bevi, ti fa male? No, ne ho bevuto talmente tanto già, non ne ho più sentito la necessità, mentre bevo, come si chiama, tutta roba, latticini, yogurt, me ne manca vedendo, budini, formaggi, tutte quelle cose lì, burudruppo ne mangio, però latte neanche a vederne. Anche mio padre era così, lo sai, quando era giovane non voleva mai fare colazione, mamma gli stava appresso, se fa la colazione che ti fa bene, devi avere un po' di energia per affrontare la giornata, questo e quell'altro, gli facevamo un po' di discorsi, eppure non ne voleva sapere. Beh, poi quando è andato in vicciaia ha cominciato a mangiare il latte la sera. Ma lo stesso caffè, io il caffè l'ho preso mi pare lo stesso sino ai 6-7 anni, non di più, poi finito il caffè, mi piace l'odore, proprio quando c'ho la torrefazione qua vicino, proprio l'odore del caffè è una cosa piacevole, il caffè prendo, non dico tutti i giorni, ma tante volte lo prendo la mattina quando mi alzo. Il tè non è una cosa che io, lo sai che cosa lo prendo, quando poi viene un amico a merenda, cosa così, ci facciamo il tè con i biscotti e via, però non è una cosa che prendo spesso, no, il latte io lo bevo ogni mattina, senza nulla, li metto il fruttosio in mezzo, un cucchiaino di fruttosio e via, boh, basta. No, così, cioè poi mi vuoi far vomitare, mi avvicino il caffè latte, quello mi fa vomitare, solo a vederlo mi fa vedere bene. Quindi il cappuccino, no, io mi faccio il cappuccino con la macchinetta, proprio con la schiuma grossa, mi piace un bel. No, il cappuccino è diverso, ma quando fai il caffè latte, quelli che si mettono il pane dentro, a casa mia sempre così fanno, mio padre, mie sorelle, tutti qua, bambina, io me la allontanavo mi veniva la vomitare. Questo dipende dai gusti delle cose, magari poi se lo assaggi ti piace, il cappuccino per dire è piacevole mangiarlo, io a volte qualche biscottino faccio per cazzo di gola, la domenica per dire mi vizio un po' qualche biscottino me lo metto, gli altri giorni no, ma una volta alla settimana si può fare roba, non ci si può privare tutto, oggi ho preso una dozzina di pasta e una l'ho assaggiata, mi deve bene da sempre l'asta. Beh, io eravamo poco fa a Carrefour, siamo andati prima a casa, ho preso un trancio di pizza e poi ho detto no, io siccome con il salato ci deve essere sempre l'occhio, sono andato a Carrefour, ho preso siccome alla fine poi stavano chiudendo, quando chiudono tirano le parti al 50%, e le ho viste dire, io chiudiamo, cioè, c'erano quei fatticini piccolini che ne sono stati una quindicina, me ne sono mangiato ormai con 7-8, mi lascio mangiare di dirlo, bocchi rossi, sì. Certo, già ne mangio un po' io, o Nutella, io sono di quelli di bocchi d'oro. Io, la vita mia, senza il dolce, qualunque cosa mangio, io quando pranzo, ci deve essere per forza qualcosa di dolce, può essere un biscotto, una pasta, una cucchiaiata di Nutella, che sarà, e sono quattro buone cucchiaiate, non sono una. Ci deve essere per forza nella mia, nel mio pranzo, nella mia cena, sempre qualcosa di dolce, se no mi manca qualcosa, un frutto, devo per forza mangiare qualcosa di dolce. Anche io, la frutta non mi deve mai mancare, a me la frutta, l'insalata non mi devono mai mancare. Posso privarmi del primo, ma della frutta no, perché mi sembra che mi dia, non lo so, che mi faccia scendere tutto quello che ho mangiato, che me lo faccia digerire brutto, perché sento qualcosa di liquido, di dolce, ed è piacevole, specialmente se sono quelle arance rosse con la buccia fina, mamma mia quanto mi piace. No, io mi frutta ne mangio quando c'è, naturalmente non è che molte volte a casa ce l'hai tutti i giorni per dire ti manca, devi prendere, però non deve mancare nella pasta il formaggio, quella è la cosa indispensabile, senza formaggio non la prendo, e poi il pane, sono le due cose che a casa mia non mancano mai, il pane, il formaggio e la pasta, quella la posso mangiare in tutti i modi, però normalmente la mangio con qualche sugo particolare, oppure moltissime volte me la faccio fare in bianco al burro, che ne mangio a quintale. Io oggi l'ho mangiata con i carciofi e la panna, ma non è buona, a me mi piace troppo i carciofi. Sì, sì, anche io, oggi me l'ha fatta col tonno, però era tonno senza, l'ha preso senza l'olio, e l'olio l'ha aggiunto lì, però non mi è piaciuta, l'ho mangiato un pochettino, non ce l'ho fatta a mangiarmela tutta, ho preferito mangiarmi poi l'insalata, che diciamo, me l'ho mangiata più volentieri, però io pasta la mangio a quintali, riso lo stesso, cose così le mangio, mentre carne quasi niente, zero assoluto, mi posso mangiare qualche pezzo di salsiccione, e fettine di pollo, cose del genere, pesce un me, quelle cose sì, però carne quasi niente. Noi abbiamo scoperto un nuovo tipo di carne, non l'avevo mai mangiato, il tacchino. Sembra una carne asciutta, roba così. Mia moglie la fa con questa salsetta, ma te ne ricchi di ditta, roba. E l'ha proprio scogitato questo modo di farla, che di tu gli l'asciutto della carne e il sughetto, vabbè, è piacevole mangiarlo perché è buono, capito? Fatto con le carote, non so cosa ci mette, è una salsa che fanno, è più buona la salsa della carne, per dire, però la carne è tenera, perché la spolpano, prende le cosce che sono ben grandi, le spolpa, le fa tipo spezzatino, e le mette con questo sughetto qua, ma veramente è buona. Ok, vabbè, io adesso devo interrompere, devo fare cosa, ok, saluto di nuovo Gianni, Gianluca, Eugenio, non so se ci sono ancora, forse siamo andati delle bitte, e poi tutti gli eventuali amici qua in ascolto, cuoretti da parte mia, ciao ciao a tutti. Ciao Robè, ci sentiamo, buona cena, dai, ce l'hai fatta, buonanotte, gappa gappa, avanti Gianluca se ci sei, tu bocchi d'otte sì. Io non posso assire i bocchi dozzi, anche se mi piace di dozzi, ma non li posso mangiare. Ogni tanto quando è a giovedì di Zenano, ma c'è sempre bisogno di qualche cosa lì adesso, non pare che manca qualche cosa. E serve. Oddio. Sempre mi bocca, che cosa di dozzi? Lo so, è una questione di abitudine. Io no, la verità, manco prima, non ero così esagerato con i dolci, per dire, molta gente pensa uno si prende il diabete perché mangia molti dolci, no, a casa per dire le paste, queste cose qua, quando c'è una festa, roba del genere, sì, ma non ogni domenica come certe case, capito? E io, se c'erano le paste già mi piacciono, la torta non è che ci vado matto, però le paste, mi piace molto la torta gelato, quella lì viene netta, così già mi piace. Oggi per chi fa dieta è l'ideale. Allora. L'ideale era stata trovata, ma si può pure fare così. Ma se non avevo mai provato il Vox, provato è. Ma di quello là? Eh. Tu la curiosità non l'ho mai provato già. C'è un tastino, tu lo clicchi, c'è scritto Vox, Vox. E poi mi sei stato a toccare il microfono. Prova io. Aspetta che sto buttando l'antenna. Audura. Ma c'è anche la regolazione? Se dici, però provalo così, schiaccia e parla. No, no, ci deve da fare la regolazione, cioè non anda. No. No. Qual è questa regolazione? Non lo so. Non ho mai regolato. Il mio va bene così, l'ho premuto e è andato subito tranquillo. Non lo so, forse è questo. È scritto mi Vox, il Vox. Sì, ma se lo schiacciamo il tasto non va. Non so se c'è qualche funzione da inserire a parte. Il tuo verbale che l'ho regolato io da dietro. Ah, c'è la regolazione da dietro. Quindi bisogna farlo da dietro, classe. Certo che sì. Ma allora non le faccio, non mi interessa. Siamo raggiunti. Ci sono due potenziometri piccolini, inserisci dove c'è scritto Vox e poi regoli piano piano, quando vedi che va importante è regolato, deve staccare, c'è uno per la portante e uno per la regolazione dell'attacco. Quello di Gianni era già regolato perché l'avevo regolato io e quindi quando inserisci Vox va in automatico. Io che c'era questa regolazione non lo sapevo, almeno ho visto che ci sono dei potenziometri, ma non sapevo per che cos'era. Io sono sempre qua. Ci andiamo, molto grazie, grazie. Mattino adesso ti dico di cambiare, passo dalla tua zona. Tu classe, sarebbe come sta andando? Bene. Perché prima mi dicevano che era un po' culpato, questo qua deve scaldare, porca miseria. Dovete, due conversioni, più scalda e più va bene, dovete regolarvi in watt e watt, la differenza tra il 430 e il 440 è quello in due conversioni, quindi quello va in automatico e quello man mano che scalda si autoregola il microprocessore dell'LC, tutto lì. Va bene, vi sto ascoltando, vi sto facendo cosa, a dopo. Non è finita ancora qua. Sì, finito, ne ho già iniziato anche un altro. A posto? Sì, devo cambiare un microprocessore che ha danneggiato il microprocessore della scheda CPU, ma niente di particolare. Domani mattina si cambia la radio a posto. Era quasi balapazzio. Vabbè, meglio così. Luca. Riprenditela, te l'ho detto che dopo che ha scaldato è andato bene, in effetti prima era un po' cupo la verità, te lo dico anch'io, però come ha scaldato e come è abbassato appena appena il Mike Lee, si è andato perfettamente, era perfetto. Non è andato, ok, dai, ho avuto l'altra parte già. Eccoci, sono là. Questo che cos'è? No, negativo, questo è lo Stalker. Anche questo qui va bene. Lo vedo già. Mi sembra di un auto duro, Come si chiama Stalker? Stalker 9, americano. Ah, e dove l'hai preso già lui, da fuori? No, questo l'avevate già un po', l'ho preso da Antonello Barracuda. Capito? Questo ce l'avevamo anche precedentemente, tanti anni fa, sia io che lui, avevamo anche una versione con la scheda dei 45 metri, c'era un tasto, una levetta e commutava i 45 metri, capito? Però questo invece è normale, originale, nuovo, senza manco un graffio, proprio parecido dalla grafica. E esce anche bene il radio, con che microfono stai pilotando? Questo sta andando con l'M300. È bello forte, io sono in cuffia, ti sento chiaro chiaro, forte. Forte. Bella la radio. Sì, sì, va benissimo, guarda. Ti ha azzeccato. E quanti canali c'ha quello? Quello giallo. Non so, ce n'è 43 e 40 sopra, più le parti laterali. Ma è un apparecchio di vecchia era o qualcosa di nuovo? Di vecchia era. Allora, non l'avevo mai sentito come marca, va. Magari te l'ho visto in macchina, però non lo sapevo che era quella. C'è un frontalino, la parte inferiore, tipo color legno, con tutti i pomelli cromati. Ma è bello, classico americano. Ho capito come. Sì, usano quella carta adesiva tipo legno, anche in molti apparecchi, diciamo, di stazione base li fanno così. È molto bello come si presenta, dopo è anche veramente buono come. L'unica cosa che non c'ha le FM, gli americani non fanno bene FM, io so tutto più manca. Non che c'è, che sente basso, no, proprio non c'è. Questo c'ha M, NSD e USB. Perché loro non li usano FM, hai capito? Usano le bande laterali più chiare. Invece i tedeschi, in FM. E fanno belle radio anche loro, Loro l'americano e gli americani, dopo li va. Gli americani hanno la maniera della grandezza, tutte le cose le fanno superiori. Sì, sì. Ma loro sono eterne, le cose che fanno loro sono eterne. E quando vanno bene, sì. Già c'è qualcosa che non va bene, ma comunque in linea di massima, sì. In linea di massima sono apparecchiature che durano perché sono fatte con criterio. Sono tutte cose, però non sai cosa c'ha la mala sorte, che non ti danno i pezzi di ricambio gli americani, li danno solo ed esclusivamente alle case che si prendono, magari che hanno l'esclusiva di quella marca e basta. C'è una assistenza già, lo so, no, io si trovo, io parlo in generale, io parlo delle auto, le apparecchiature, comunque sia, comunque qualunque tipo di cosa che fabbrica nell'America, capito? Hanno qualcosettino in più. Però vedete, sono fatte con più criterio, anche con la tubella di massa e cose, tu vedi come ti fanno le cose. E sono megalomani, devono essere sempre i number one. Invece in Giappone c'è lo contrario, 2020. I giapponesi fanno la cosa con molta economia, fanno lavorare soprattutto i minori, nelle fabbriche, queste cose qua, quindi la cosa ti dura un'altra da Santo Stefano. No, cinesi, giapponesi, sto dicendo già. Ah, giapponesi, e vabbè, comunque, loro invece fanno le cose in miniatura, sì, ne fanno piccole e funzionali. E costano di più quelle piccole, le cose che devi si mangi, in proporzione costano di più, lo sai. Sì, però prendono sicuramente meno spazio, capito? Ma no, fanno quei televisorini piccoli piccoli, che te li metti tipo cornici sono. Ma lo so, che sono ingegnosi i sastri, Ma se l'antenna ti rubano in cameretta e via, ti abbiano il televisore. Non fanno un sacco di cose. Ma i cinesi sono più bassiccioni, sono più frinfru. Fanno le cose, sembrano belle, le cose, poi ci sono un'altra e Santo Stefano. Pantaloni, badici, belli di incassare, giubbotti, pantaloni. Le fodere si bucano subito, perché sono fini. Il resto che può durare una fitta, però le fodere sono talmente fine che si bucano subito, non si può pure nulla a bucciare, se vuoi fare di già si bucca. Io lo so perché per lavoro me ne compro queste cose qui e ce le devo buttare sempre per le fodere perché sono troppo leggere. Non la puoi questa roba d'acqua è fatta con il petrolio. Quella che fanno loro? Sì. I jeans sono della per dire, i bilinchini, i risparmi per lavorare vanno bene. I giubbotti, lo stesso, i giubbotti per lavorare, tanto io li uso sopra il camice molte volte perché c'è freddo e me li sporco, me li rovino, capito? Me li buco a volte. Se li lampo me li biglio un asso, capito? È più, diciamo, è più alla mano, dai, costano meno. Allora, tu vuoi prima più giubbotto di Lucento Euro, ma da trabagliare, che così, d'accordissimo con te, in che dura fa bella figura, da voi l'hanno così in fascia, ti fa fatto un anno, due anni, ti chiedo che è, ti ha fatto 20 euro, 30 euro, chiedo che è. Infatti, ma poi sono caldi, mi sono giubbotti caldi, la verità, si perdono nelle fodere già lo si perde. Nelle fodere del giubbotto e dei busciaccari, che si buccano di tutto. Ma tutto, ragazzi, qua che deve pure risparmiare, se no si spiegano questi prezzi così tracciati, a parte il discorso sicuramente del costo della produzione, sono fatto veneo, dopo la vera maglia di creatori, dato 24 ore, qualcosa tagliando lo cuoio, mi sono fatto le braccia e quelle con le braccia sono a testi, ma la detto che le vecchia, è un popolo, guarda, allora l'ultima cosa che ho visto su internet, prendono quelle tartarugine, visto quelle acquatiche, quelle che musicano pure, le mettono in questa busta sotto vuoto come portafortuna a vive, li mettono una specie di liquido che le tiene in vita una settimana, poi muoiono. Praticamente le vendono così come portachiavi, capito? E facile gribare giù su. Certo. Ma capiamo, come ti portachiavi, di come ti vai a portare come ti portachiavi? Praticamente. Io non me l'avevo avuto portachiavi, dico così, fatto così. E le mettono vive, poi le mettono sotto vuoto, le mani come ti dico, se hai finti, compresi. Poi dice che c'è questo liquido che le dà nutrimento e cose per una settimana, poi muoio. Vabbè, tanto muori devi, ne fa cosa devi fare, rimani una gita così, che cazzo va? Forse per vederle muovere dentro il coso del portachiavi, capiamo. E diventi sadica, ho visto un documentario che mi ha fatto male allo stomaco, mi ha nauseato. Arrivavano gli autotrini pieni di cani, li bigliavano con questa specie di ganso, marugudu, e aveva una pinza finale, lo prendeva per il collo stringendolo, lo toglievano dal camion così, là subigliava un roccio, le curiacque per il roccio, e quando i cani gridavano li mettevano il piede sopra la testa e lo spogliavano vivo. Per dirti quello che fanno, è un popolo un po', non so come definirlo, se primitivo oppure che cosa dirle, crudele, diciamo, crudele, perché e loro dicono che come noi ammazziamo gli agnelli, loro ammazzano i cani, però noi gli agnelli li ammazziamo, quello che usi li ammazzi e muori di subito, quindi i cani vivo, a colpi di roccio, di buono bel in capo, guarda, ho visto questo filmato, cioè, non ti credimi che mi ha fatto male. No, era su cosa, su Facebook. E praticamente c'è scritto, guardate questo video. È una cosa allucinante. Io ho premuto e ho visto il video. Ma non l'avevo già visto. Subito l'aveva pagata poi già. Non lo vediamo già. Non lo saremmo anche pubblicato le cose. E vabbè, non potevo usare quello baraucci, Gianluca. Bisogna sapere come sono le cose. Non è che dobbiamo stare col paraurto. Dobbiamo vivere con luce a bici. Sì, vabbè, meglio se non lo posso fare manco, meglio se lo metti che dobbiamo in carezza. Sai come ti trovo la resa, posso solo che dobbiamo in carezza. Sai che tu l'hai preso così. Giustamente bisogna sapere che non ricordi, non sto per il dubbio, ma io sono in Italia io. Il discorso è di una sapere come ci siamo muovono da noi, quando abbiamo come si è fatto nell'altro muro. È vero, però questo è un corso no che verrà punta. E tu sei in Italia, ma in Italia è più di cinesi, è a metà di. Siamo circondati dai cinesi, capito? E fate di burro che prepotente un bel di bus. Sapete che si ferma da te. A che gruppo di prevenzione? Allora, abbiamo anche dice che ha dato un burcone, non è il bianco. Come se avete fatto le carriere a barra di un capo di culo del resto. E se le carra, ne? Che se secondo me che cosa di organo, non so che l'hanno fatto anche una commessa, te l'ho detto. Oia, la cassetta, oia, ma di tutto la fatta era appunto sempre rivisto, era appunto sempre rivisto. Cazzo, voi la delinquenza è una malvagità, cazzo, fuori da normale, non si tratta più, insomma, di andare pure a far mangiare. O magari fare la cosa che ho fare da loro che ti ha perché ha potuto unisco, capirò da la cosa che c'è l'erano di brutto. Vabbè, lì si tratta, Gianlu, si tratta di cose proprio di sequestro di persona e in più sicuramente c'è qualche cosa, qualche organizzazione per scatto di organi, di coso, perché lo fanno anche in diverse città fuori, specialmente, come si chiama, diciamo nei paesi tipo la, cosa ti posso dire, ma come si chiama, in Brasile, questa è la zona povera del Brasile, tutte queste zone qua fanno, rapiscono i bambini e per dire, rubano gli organi, i bambini anche grandi. Bene chiesto, Cavadinà, che va problemi, che va a scappare per il figlio di Lucia, Baida. Ora ne ha poi da a chi si crudeltà. Hanno fatto vedere anche in televisione dei documentari del Brasile povero, della zona povera del Brasile. Dove fanno queste cose qua? L'ho fatto vedere uno che va via, tutto quanto, la bitorra con un taglio enorme. Pigliava dalla panza fece quasi rubuto, infatti rubuto. Bisogna stare molto attenti, adesso se ne dovevi usare quattro di occhiavale devi trattarsi per i bambini, perché è un attimo. No, un attimo proprio, che c'è maraviglia, eh. Io penso qui, una volta, quando avevamo Manuela piccola, Marco ancora non c'era, con mia moglie mangiavamo a turno e uno giocava col bambino, il bambino correva dalla cucina alla sala, io ero in sala, mi stavo guardando Domenica In, me lo ricordo ancora. Papà veniva, dopo correva la Liliana e mi diceva ma con te sì, non ti preoccupare, poi mangiavo io, lo prendeva lì, capito? E fatto sta che a un certo punto io mi sono drumito. Mi sono addormentato a guardare il televisore, lui cosa ha fatto? Ha aperto la porta di casa, mai fatto l'aveva, e si è suicida. Liliana mi fa, Gianni, ma con te Emanuela? Io non rispondevo alla festa, già, ma dove Emanuela? Cazzo, l'ho cercato tutte le camere, non ve la comincia a scrivere a mia moglie, tutto il palazzo è uscito. A cercarla, siccome c'erano gli zingari accampati vicino a casa, mi si di fronte, se passo da rasa, si cala a girare gli zingari. E niente, chiedo, sai cosa aveva fatto? Se è andata su all'ultimo piano dove si va per il tetto, si busa da Negradini e si busa a Gantà. Beh, ci siamo andati ai carabinieri subito, gli ho detto guardi che la bambina è scappata e cosa da casa. Dice, come è vestita questa bambina? Io guardi, se me lo dicesse non mi ricordo nulla, ho la testa che non capisco nulla. Però non penso che bambine di 3 anni e mezzo ce ne siano tanti in giro senza i genitori. Quella è sfiga, basta magari la fretta, la cosa. Vabbè, io lo faccio automaticamente sempre, controllo tutto prima di sportelli, quando richiudo controllo sempre che sia chiuso bene, più di una volta mi ha fuggito, ma invece ha messo lo sportello mio. Sì, si disse che è successo con me la Costantina, è successo con il cannoncino della Melfa. Esatto, purtroppo sono cose che possono succedere magari con la fretta che è di lavorare e cose, però sono sbagli che si pagano per il, mamma mia, si pagano soprattutto non con la legge, e interiormente ci rimane questo cruccio, questa cosa tutta la vita, questa angoscia, questo rimorso. E bisogna stare molto attenti, io quando fermo il furgone giro sempre le ruote verso il marciapiede, come mi hanno sempre insegnato alla scuola guida, e quello lo faccio sempre, quello lì dove si è infarata, piglio il rode, retromarcia, via. Hai modo che se si molla, guarda si va a fare la marciapiede. Allora, chi è avanti, chi vuole entrare? Sta parlando a voce bassa, io. Vabbè, quando va bene di parlare della voce bassa, poi non entra. Però se mi viene a dare una lettera, se non ci sia nessuno, devo fare questo, devo fare tu. Io te l'ho promesso. Sì, sì, ho messo questo già tranquillamente. Vabbè. Sono cose della vita, però bisogna stare molto attenti. A me l'altro giorno io ho preso il furgone, come sono arrivato sono partito senza controllare, deve essere c'era già lo sportello mezzo aperto, ho fatto una curva, si è aperto lo sportello, per fortuna aveva ragione una macchina parcheggiata, se fosse stato un uomo l'aveva missato, e ho preso lo sportello di questa macchina, l'ho fatto danno. C'era il tipo dentro, dice chiamo il carabinieri, che cosa chiama il carabinieri, ti faccio l'assicurazione, buh, che cosa, che problema c'è, ma io qua, ma io là, e chiama il carabinieri, cosa devo fare, io non posso prendere il tempo, detto, venga dove deve venire, in ufficio, e gli facciamo l'assicurazione, problemi non c'è. Poi ha cominciato a dire che l'ufficio era carabinieri, su il lastro, ascolti, a me non sono cose che a me mi interessano, io glielo so fare l'assicurazione, cosa vuol dire se carabinieri e cosa? Dice, ma dovete farlo controllare questo sportello, perché se si apre ammazza qualcuno, poi, e vabbè, questi qui sono problemi nostri, io lì l'assicurazione la sto facendo, quindi non c'è problema. Beh, già se vedevi questa macchina tutta scrostata, era di questi pick up di campagna, tutti i canti campagna, tutta ammaccata, tutta cacciabossa male rugginosa, poi che va via una Mercedes. Sì, sì, allora, pare che è toccato, l'abbiamo sentito in culo. Non so, purtroppo, poi 2 più 2 fa 4, ho capito chi l'aveva usato e chi l'ha lasciato aperto perché ha scaricato roba, capito? Però vabbè, sono cose, può essere stata anche colpa mia che non ho controllato prima di partire. Se non si tratta di partenza la discussione. Però se lo fai tu anche tu, quella la cambuccia. Io sono fatto così, non mi piace creare problemi a nessuno. Tanto a me non mi trovo tutto dallo furgone, mi sono rotto due legamenti, menisco, sono stato operato, eccetera, eccetera. E questa commessa che ha tirato un mese che io stavo scaricando era inchinato per farlo scendere piano piano, per non scendere di colpo, questa commessa non mi ha visto, mi ha preso, ha tirato il bis, cazzo ci sono messi due rubis dentro, ci sono entrato dritta rubis. Dritta rubis? E allora, sono congaggiato dal furgone, ci sono messi dritta rubis. E bis è quel contenitore in plastica dove mettono le angurie, i meloni. Ah, lo c'è, stavo male, sono grigi, grigi, verdi, dipende. Purtroppo io dentro non ci stavo, già avevo sbattuto forte di ginocchio, non riuscivo più a alzarmi. Dopo quando mi sono alzato, avevo la gamba sboccolata, come una marcia, come il cambio sboccolato, la stessa cosa. Se ne andava la base all'asse, ha giubilato il furgone, nessuno mi ha aiutato a uscirne fuori, ho fatto un po' di fatica, ma lì mi sono tutti i gatti, nessuno, tutti abbaidava, nessuno mi aiutava. Hanno preso, sono riuscito a malapena a uscirne fuori, ho preso il furgone, l'ho parcheggiato, ho preso la moto, meno male che moto, non dovevo guidare la macchina. E sono andato a casa, a dolori, a grida, a cazzo, mia moglie si è assustata, si è preso i piedi, non potevo muovere di un millimetro il ginocchio, erano dolori lancinati. E poi mi hanno dovuto operare, per dire, e io non ho mai detto che era colpa sua. Vabbè, comunque anche la distrazione nostra, comunque sia, anche con tutto il discorso della negligenza anche degli altri, perché se saremmo stati proprio responsabili tutti, certe cose non succederebbero, solo che non ci prendessi da preparare. Le cose le fai magari per scontate, le fai in automatico, capito? Senza che tu vuoi che poi è stato abbastanza sbagliato al momento sbagliato, ecco. Io eventinato, io lo stavo scendendo dal furgone, no, piano piano, stavo facendo scendere, si era toccare a terra, per non scendere di colpo mi sono inchinato lì, non mi ha visto, ha preso e l'ha tirato, capito, per farlo scendere, si è tirato pure a me, io ho perso l'equilibrio e si può fare ad un letto. Fuori, ero sul furgone io sul furgone, sono caduto da dentro il furgone sino a entrare dentro il bici, che il bici l'ha buttato in terra, io ci sono entrato dentro, sono caduto dal furgone e sono entrato dentro il bici. Cazzo, come devi trovare da lui che sta legando per trattare il tuo bici? Stavo a mettere delle angurie perché c'erano due pedali, una pedale con una, due bis. Un bis l'avevamo svuotato in un altro che c'era nei negozi. Quello lì dovevamo scendere, mettere il negozio e svuotare l'altro, capito? E poi uno mi rimaneva vuoto sul furgone e me lo portavo via, l'altro lo prendevi col traspar quando era carico di angurie e lo mettevi dove lo dovevi mettere. E purtroppo ci ho anche rimesso soldi, non è solo, ci ho rimesso soldi, perché visite, 100 euro di ortopedico, cose, poi sono venuto a Satellite a fare la fisioterapia, insomma un bel po' di soldi ce li ho rimessi. Vabbè, quello del Satellite no, perché me l'hanno fatta da Messere, ho pagato il tanto del ticket, ma per il resto ho pagato medicine, pomate, il coso, il tutore per tenermi dritta la gamba, la stampella, insomma, un bel roba. Cosa buttato il tempo del messo? Due mesi mi sono stato così, che non riuscivo a camminare bene, non riuscivo a appoggiare manco la gamba. No, una cosa di nulla, no? Di venuta no, perché praticamente due legamenti li ho rotti, uno era al culmine, quasi si stava rompendo, praticamente quelli che tengono le ossa unite, i legamenti sono, non è che tengono la gamba unita, fanno fare l'articolazione. Il menisco è quella specie di spugna che c'è tra uno e l'altro, quella me l'hanno dovuta togliere a sportare proprio. Quando vai i brinchi, per dire, c'è questa spugna che attutisce il corpo, fa da ammortizzatore, non tra uno e l'altro. Oh, il menisco è una specie di spugna che va tra uno e l'altro, e poi da dire su internet. E praticamente quando tu salti, fa da ammortizzatore, no? Non li fa sbattere, io adesso questi salti così non li posso più fare perché una parte di menisco mi manca che era spappolato. E quello non ricresce, no? No. È stato Buddha che mi ha operato e ha fatto un'operazione, Alghero mi sono operato. Ha fatto una bella operazione, guarda che prima soffrivo di brutto, dovevo, quando ero con i catti dovevo girarmi, dovevo alzare, mettermi il piede dell'altra gamba e alzarla con il piede dell'altra gamba, la gamba per girarla. La giuria. La giuria, mi ha zecchito, ma grida però, cioè, come bambini. Una cosa, guarda, che non augura nessuno. Poi, vabbè, già mi sono messo a posto, ho cambiato con due stampelle, poi con una e poi l'ho toccato del tutto. Merce. Oia, oia, oia. E vabbè, cose che già si superano. Meno male. Poi già c'è anche abbastanza... La tecnologia comunque sia, sono da abbastanza di studi avanzati, la pensa il boss, si fa delle cose allucinanti, e così interventi di calcificazione, con le medicine, no? Penso che ti fanno, che aiutano la crescita, e da c'è me, ma io la penso veramente, devo dirigere molto, qualche mese avrò un ragazzo, quel ragazzo ancora. Davvero? Con la Vespa? Sì. Io sono stato affrontato, io mi ci doveva la moto, quando non era manco un gatto ancora, non si rinvigliava, non era anche da solo. Ma se questo qua potrebbe essere un po' la macchina, mi diceva anche a me, tu vado a fare la carriera, avevo un catturante, tutti e due. Ma tu mi trovi, se no? Non l'ha mai tolta i fili. Non ha mai cavato, io andavo a fare che sta andando, e poi mi sono messo da scuffato. Ma che ero un ragazzo, no? E lui come ha cominciato a camminare, camminava un bene, come fa a correre, a fare tutte cose. Non mi sono mai andato, a poco anni. Ma te ti danno fastidio? No, no, non si sente nulla. Ma oramai, ma neanche prima si sentiva qualcosa, perché... Perfetto. È un corpo strano, senza ombra di dubbio. Però, oramai c'è stata. È condiviso la pittura, diciamo così, oramai non è niente di preoccupante. Superato brillantemente, grazie a Dio. Correvo, ho fatto un bicicletta, tutte quelle cose che vuoi. Magari un pochettino quando cambia il tempo, ma non sempre, credi. Sento un pochettino il cambiamento del tempo. Ma prima rimane di zuffo. Beh, ma sono cose che per dire io ho un amico che se l'aveva fatta l'operazione, ha avuto un incidente morto, dice che stava mangiando la pasta, lui non era manco, si dice si ricorda sempre la scena. Sono andati al bar, si hanno preso due paste e l'amico, se quello che guidava se l'ha mangiata prima, lui se la sta mangiando piano piano in moto. La guida ti esecuta una macchina, se esci da dentro ti dà quella base in mano, ti è rimasto, che è caduto con la pasta in mano. E l'ha smalzato dalla moto, l'ha fatto volare e praticamente si è rotto il femore, il coso, come si chiama, il malleolo, eccetera eccetera, diceva questo ferro e gli dava un po' di fastidio, lo pungeva proprio, lo pungeva, non si poteva muovere, gli pungeva proprio, l'hanno dovuto rioperare. Io cosa ha fatto qualcosa allora? Ha fatto qualche errore allora, quello sì. Ma io ho iniziato a fare l'altre, preso l'affare, per vedere se si calcificava bene, se è tutto regolare. Però la verità non ci sono mai andato. Non ci sono mai andato. Avevo provato a fare qualcosa qualche anno fa, devo dire una 5-6 anni fa, forse anche prima, forse anche 10 anni fa. Però arrivo a quell'altra, era talmente calcificata che tu ti bucava. Sai cosa c'è Gianluca? Che il nostro fisico, quando ci sono corpi strani così, vi racchiude. Vi racchiude e forma un callo. Di modo che gli esterni dal resto della carne che ci abbiamo, capito? sì, è normale, è il cazzo tuo. Io c'è l'altro, quando ho fatto l'altro, il punto dove si era rotto, praticamente l'osso si è triplicato come grandezza, quel punto lì, capito? Cosa ti avevi rotto, Gianni? Il punto medio femore. Femore, che pare di biliare. E vicino alla rotola era, vicino alla rotola della, dell'arto destro. Sono rotto di scatole, quindi sei stato in trazione, no? È stato relativo 11 giorni, se mi ricordo bene, in trazione, dopo che mi hanno apparato, sono rimasto 8 giorni lì, che mi avevano fatto la ferita con i punti, dopo hanno mandato a casa, ogni mese salivo per fare la medicazione e la lastra per vedere come stava calcificato. Adesso quasi 3 mesi. Forse anche di più. Piano piano, mi sono messo dritto piano piano con la sedia, camminavano, per fratelli erano tutte le camere, le fratelli ancora no, e dopo me ne devo fare le fratelle. Poi camminavo con la sedia, poi avevo il fermo del rotto della gamba, e la rotto la rotta dell'altra, capito? Ho avuto solo le gambe io, quindi faccio da una, bella di Bazzana e giù dall'altra, no? A muta. Tanto buona si chiude, sentite, capito? Allora, piano piano camminavo e dopo piano piano sono stato a camminare sempre di più, facevo una bella fisioterapia, allora mi stancavo, mi fermavo in strada, poi riprendevo, piano piano, proprio l'ho girato proprio qualche stardaggine. Sono 3-4 mesi e vediamo come c'è la cammina tranquillo, come c'è la fatto più facile, le cose, dopo non adesso come c'è la corra a correre. Sì, sì, anche io così. A me, guarda, un amico mi ha detto già, non ti abitua a tutte e due le stampelle. Quelle due adesso le tratti, un primo periodo a voi una la molli. E piano piano ci butti via tutti e due, perché se ti abito le stampelle tu rimani sotto. Cammina, cerca di camminare, perché un amico mio dice, si è abituato alle stampelle, non riesce più a camminare, camminava tutto zuppo e cose, ne ha fatti i cavaini. Fatto sta che ho fatto davvero così. E in effetti aveva ragione, se che avevo le stampelle e avevi questa sicurezza e cose, poi un po' l'hai persa, però allo stesso tempo tentavi di fare i passi piano piano e poi mi hai giovato. Certo, a me certo, sono veramente così, sono i tuoi, sì, praticamente dipendente di questa cosa, che invece dovrà stare piano pianino, ma già te ne accorgi comunque quando le cose che fare, ecco. Beh certo, io ho fatto anche molto fisioterapia a Sardegna, perché a Sassari non c'è più posto. E allora questa tipa che conoscevo gli ho detto, oh, non c'è nessuna scusa, ma puoi andare a Porto Torres se ti viene bene. E io ho detto, piglio il pullman, faccio qualche cosa, però ci vado. E praticamente scendevo a Porto Torres e facevo fisioterapia con la signora di nuovo, dice, non so se la conosci, è molto brava. E faceva delle scosse elettriche, insomma un po' di tutto per riattivare la circolazione e il movimento della gamba, capito? Poi mi faceva fare esercizi e mi ha messo a posto. Sì, ma tutto sta sempre come che sia a farla, per esempio di fisioterapia non me l'ha detto, sì, falla, ma infatti da tu mi ha detto. No, devi camminare, quando sei stanco ti fermi, dopo riprendi, cammina, non ti preoccupare, vai tranquillo adesso. Ma io ci ho fatto anche la fisioterapia, prendevo il pullman, mia moglie mi accompagnava fino alla fermata del pullman, io prendevo il pullman, scendevo con l'ortore, scendevo lì alla fermata e poi quel pezzettino di strada me lo facevo piano piano con le stampelle a piedi e niente. Sono stato quasi un mese che facevo fisioterapia. allora la gente accomenta avere un'unità che dice che sono potuti accomentare di Gesù Cristo comanda, non è possibile, non è possibile di andare così. Stamattina già lui mi sta sotto le 7 per andare a lavare la macchina, si busta a fare, va a bucare. L'ho tutta gingillata, busta la bomba cicli, pulita dentro, poi si riuscita a cuscotti, nello gomma e tutto quanto, fatto. Paria, una signorina paria, sa mai. Beh, e poi fa caso tutto questo garage in Nando. Ma poi, siccome mi si busta a fare, va. Sì, vabbè, ma almeno gli ho tolto quella cosa, sembrava la macchina del cantiere. Sì, sì, vabbè, intanto è il tempo comunque sia, eh. Questo è anche così, magari ogni tanto, giusto per non rendere troppo sporca, io quindi sono anche lì dove c'è anche quella pulvator. E lui ha fatto una bella sgrassata le parti del fango, la polvere. Guardate che si è ben pulita dentro, dopo quando è pulita troppo bene, già la lave come si deve, capito? Sì, dentro l'ho pulita, era già pulita, non ne aveva sposizione, l'avevo pulita a fuoco. No, non mi piace la macchina brutta dentro a me, che ci sto io dentro. È brutta anche quando è sporca fuori, perché la mia è blu e si vede un bel. Quindi i colori scuri sì. Il colore mio rispetto, il colore della sporca è il grigio è bianco, il grigio metallizzato è il bianco. Infatti, ma nel colore qui nero, blu, si vede un bel blu. Vabbè, è brutta la roba a te, sì, perché come te è brutta la mia, è brutta la tua, si vede chi sei, ma va, si vede di meno e si nota di meno. Invece quella mia, vale, la macchina di Rizzingari, già è manna da voi, è tutta carta brutta. Sì, sì, è così, è proprio così, è quello scuro, è stato a fare di più. Lo sporco. E domani la vita per punto d'ora. Già. La vita per punto d'ora. E manco mai mi tocca. Per ma su, niente, lui sta che pure a riparirsi. Sì, ma non. Poi adesso è tutto un casino. Adesso hanno privatizzato anche l'assisa di muro, se non ho messo la cooperativa. Allora, pagavo tipo. Quella cooperativa è una cooperativa di Parma. Parma. Che fa due cose. Cose. Fornisce sisa e despa. Oh, ma quello che c'ha muro è vostro, nel senso della Sardegna. Ci sono tutti i soci della Sisa che praticamente sono tutti uniti, capito? E fanno arrivare la merce e poi se la dividono, tu lo paga la sua e via. Ecco, distribuisce tutta la Sardegna? Solo Cagliari mi pare che è staccato, Cagliari ha un altro deposito. Un deposito a sé, dai. Sicuramente Cagliari provincia sarà così, la buia. Ma Olbia, tutta quella zona lì l'ha fatta. Paesi limitrofi, Sassari, eccetera, eccetera, tutto la Cina. Non c'è stato altri due che duro e Oristano, sicuramente. Gestisce il muro, dai. Siamo 15 giorni così e basta. Questo è quello che è da 15 giorni che hanno cambiato. Ah, ho capito, amministrazione. Eia. E vabbè, c'è questa cooperativa che gestisce, no, adesso. Beh, c'è che essere proprio dipendenti, sono passati a questa cooperativa. Quindi qua sono soci cooperativa. Cooperativa di Parma si chiama Number One, mi pare. Numero uno. Esatto. E dice che c'è un bombe di appalti, di cose, che ne ha preso un bel. Ma sei fatto anche due giorni a Pologio, ma che mo cos'ecco? Insomma, anche se cooperative, secondo me, non valgono molto. Se fai di Dinandi non ti pagano manco la liquidazione, capito com'è. A casa di mia, vedo come ti sono ricordati le retributive. Non è che la prova ne c'è stato in casa Cocococo, una volta che l'ho andata a vedere lui, l'ho detto a me. Non vede Cocococo e ne fa 80, a me vede il VAR. Il contratto, come ti dicevi, e se no, arrivederci, grazie lo stesso. Non è che ti puoi permettere adesso di fare, di disfare, già lo sai come risolvi il tema. Quelli che ci sono a città mercato, cose, che non c'hanno manco pistola, non sono guardie giurate, è vero Gianluca? No, no, quelli sono... Il portierato si chiama, capito? Il servizio del portierato. E cosa va? Si controllano e basta. E controllano, si intervengono, si devono intervenire, si prendono le dovute situazioni, le dovute circostanze. Capito? Si fanno pure i fermano i chili, si va a vedere tanti miri, lo chiamano i carabinieri, si devono chiamare i carabinieri, la polizia di lui è... Come voglio dire, si fa quello che si fa, capito? Non ti va tutto là. Quindi che vigilanza, ecco, anche parcheggio. Non vuoi che parcheggio non devi fare la divisa, devi fare il borghese, devi fare, se no, lo sai tutti che tu sei chi va tutto là. Ma te la sei una volta me ne siamo successo. Ah? Non mi è successo una volta, città mercato. Ma stavo andando, coso, e ho pagato tutto quanto. E stavo andando a prendermi il gelato verso McDonald's e mi vedo tre di questi guasti, perché guasti sono, che stavano correndo verso di me. Tanto sono cacchi unici. Si fermi, non so che cosa, vabbè. Dice, mi faccia vedere lo scontrino. Te lo posso anche far vedere lo scontrino. A noi ci risulta che quella roba lì l'ha rubata, l'ha fregata. Cazzo di una figura di merda. E ho preso lo scontrino e l'ho sbattuto a faccia. E questo è lo scontrino. No, ci scusi perché ci aveva detto il caposettore che l'aveva visto prendendo questa cosa. E non so che cosa. Ma io sono macco, questo. Fatto sta che gli ho detto adesso mi date il nome di tutti, mi date tutti, c'era tutta la gente guardando, c'era una figura di cavolo che aveva fatto fare. E gli ho detto mi date tutti e tre il nome perché vi sto denunciando per calunnia. Ma non è colpa nostra, ma qua, ma là ci scusi, questo e quell'altro. Ma va bene, gente, ecco, mi state facendo solo per andate venire via. Ecco il signore, un signore mi ha detto, ma denunciate, c'era tutti e tre, ha fatto fare una figura di coso, l'aveva denunciato tutti e tre io. Ma c'è il fatto che tu non devi fare molto il pubblico così, ma ti invitano un attimino, ti prendo poi da parte da una parte, diciamo, capito, è riservato da una parte e al limite si fa vita, capito, non è che si vada così da una parte. Se si può si accorrigia a lui, pare che era un ladro di chi. A me mi è giunta la risa, che tutto, no, ma forse non ce l'hanno con me, ma sentivo che dicevano si fermi. Adesso questi qui non ce l'hanno con me, non è possibile, giù pagato, non ha giù fatto niente di malico. E mi sono, alla fine mi sono fermato, mi hanno detto ci favorisco lo scontrino, noi ci risulta che quella cosa era presa senza pagare, boh. E tra voi vi risulta a me nota, che non giocava due scontri e l'ho fatto via. E poi l'ho detto, guardi, se poi vuol vedere dove l'ho pagato, la casa è quella lì. Problemi non ce ne sono. No, ci scusi, perché il caposettore ha detto che gli sembrava che era uscito senza pagare. Boh. Come ti si fa a dire una cosa del genere, se non sono sicuro? Magari a impressione, capito? ci hanno detto che tu sei passato dalla caccia, che ho pagato un vero rugoso di falciato che ci ha sceneggiata, complesso. No, non so che cosa sia successo, che si sono capiti male, cosa ne so? No, può essere, anche può essere. Ma è fatto sta che queste cose vanno fatte con discrezione e riservatezza. Capito? Succede che cose così, anche se no poi alla fine già c'ha uno che li guprende a voi. Ti voglio pagare a cassare. Ma infatti che tu sei della paghiere, non sei per lavorare. Capito? Sono cose specialmente quando sono in ambiti così che si è a contatto con un po' di gente. E a voi vi parlate che non è davvero, perché vi diventa di tutto un ladro. No, ma non capisco perché ci siano. Lui ha detto che mi ha visto guardando. Era una cassetta, un film, capito? Era dei film. Praticamente non so com'è andata, cosa, e io ho preso questa cassetta e ho visto che questa cassetta qua era vuota, allora ho preso, l'ho rimessa a posto e ho preso quella che era piena, capito? Sono andato, l'ho pagata tranquillamente e ha pensato forse che io nella giurata io compro in Suiza. Sicuramente ha pensato quello lì. E ho detto, guarda, questo che è quello che dico io, non c'è problema, mi frughi se mi vuole frugare, però una cosa le sto dicendo, se lei a me mi fa perquisire, fa perquisire ai carabinieri e le faccio la denuncia se non trovano nulla. Esatto. No, ha detto, no, ma sicuramente si è sbagliato, questo e quell'altro, boh, ma scusi. Grazie, scusi, un uomo ha detto, scusi, io davvero con tu le barre da faccia, ti avevo denunziato, imbecille, gli ha detto, insomma, non mi stava nulla, come che non mi conoscia. Sì, sarebbe stato un po' sotto io. Sì, ma io non avevo niente a scaldarmi, già lui ero tranquillissimo. Io sono stato sempre una persona onesta, quindi non ho niente da temere. E un'altra volta è successo a Lupin, che ha suonato, e quella volta ero con mamma, e ha comprato roba a Lupin, sono dimenticati di togliere quell'etichetta che li tolgono. E siamo passati al coso, e ha cominciato a suonare un coso. È arrivata la guardia, no? Ci ha detto, sapete, c'è lo spunto, gliel'ha fatto vedere, mamma ha detto, scusi, posso controllare? Ha controllato, ha detto, guardi, si è dimenticato di togliere cosa, ritorna indietro, la cassa che gliel'ho tolto, gliel'ha tolto. Poi adesso passiamo fuori dalla strada, ma sai di salve, ma non è quelli due che hanno rubato, cazzo, mamma si è girata, ha detto, ma cosa si dice? Lei avrà rubato, ha detto, io a me mi sono solo dimenticato di togliermi l'affare, non è che ho rubato, come si permette di dire una cosa del genere? Ah, io so che l'hanno fermata. Soprattutto molto tutta cosa paglia, come paglia cosa dici? Ripeto, non è una cosa che io sapevo da fare, non è a tutti, non è l'educazione, e soprattutto riservatezza, per un'attività che l'ha diciamo invitato a venire un attimino lì per discutere, per chiarire tutto lì, ma è riservatezza però. Sì, perché metti che tu sei una persona competente, tipo o un avvocato, o un maresciallo di polizia, o un finanziere, che tu non sai, perché un borghese non sai che sono queste persone. Tu fai una cosa del genere e questi ti denunciano subito, non è che guardano niente, no? Conoscono la legge, prendono e ti fanno dei bassi a casini a vita. Mamma chiude, fanno sapere le cose che si può le fa e che dove lo si può fare, è quello che si può fare, è come bisogna fare. Certo, perché io so che non possono manco perquisire loro, non ti possono controllare la roba, per controllarti devono chiamare la questura. Ma quello non lo so Gianni, perché sei diciamo in una proprietà privata e loro sono lì addetti a vigilare, capito? Non è che sono all'esterno di un pubblico, capito? Se dentro una struttura dove loro hanno l'attività di competenza. E io non lo so la verità, perché io non l'ho mai fatto quella roba lì. Io così livelli dei tempi, io so più magari dei capponaggi, se le butti di lui in faccia le lascio. Quelle sono cose molto delicate, cioè, sono ben delicate. A chi la gente si non vede la finale come va a finire, poi dice quello che non l'ho trovato rubato, capito? Non è che non si buono di guanti. Ma è successo un bel di anni fa, ma non adesso, ma comunque un bel saranno un 5-6 anni, una cosa del genere. Io per dire, ho un amico che fa la guardia giurata e lo faceva lì a Città Mercato. Allora c'erano proprio le guardie giurate con la pistola e tutto quanto. E ha detto che praticamente questa signora ha appoggiato la borsetta sopra la roba per scegliere, c'era della roba mucchiata in vendita a poco prezzo, stavano scegliendo, ha appoggiato la borsetta, questi qui sono passati e gli hanno staccata. Questa qua si è girata, non trova più la borsetta, ha visto questi scappando, ha gridato aiuto, all'altro, all'altro, cose. Questo amico mio che era lì vicino all'uscita l'ha biseguito, questo qui è uscito fuori, ha dato due colpi di pistola in alto e quello lì ha mollato la borsetta, se l'è scappato. È scappato, però lui avevano chiamato 113, nel frattempo erano i biciclados sulla 131, l'hanno fermato e l'hanno arrestato. Beh, fatto sta che questo amico mio non può passare più in piazza Tola, ha detto che una volta è passato, mia che su bastardo, che stavo a spezzare, cazzo vai, facciamo una gara, ha detto che ha dovuto affrettare il passo perché stavano andando a picchiare. E ha preso. Gardibus hanno messo nei furgoni blindati e non hanno imparato, vedo si è abbasciato, si è tornato in ufficio che era fuso, proprio non capiva più nulla e gli ha chiesto di non far andare più sui furgoni blindati, infatti l'hanno messo in ufficio adesso, perché se è stato scioccato. C'è nessuno che vuole entrare. Gianlu, ma ieri che cosa ti è successo? Perché non rispondevi più quando ti abbiamo chiamato. Ma quando? Ieri, dormito di sì, no? Ma quando? Di sera? O di pomeriggio? No, di notte, dai. Verso quest'ora, ragazzi. Abbiamo chiamato due o tre volte. Boh, Gianluca, lui ha detto, boh, la fotti di un sono. Tu hai detto, mi sono messo l'apparato... Sono andato in cameretta dove c'è l'apparato sopra come camionisti, te lo ricordo. Poi siamo andati a chiamarti e non rispondevi più. Dormito. Vabbè, allora, sì. Trovate il momento proprio una beccata. Mi sono addormentato. Rubati. E quando sei stanco te lo farò fare anche a me. Ti ho detto, dove se ne era stanco, poverino, è dormito, perché non risponde, Gianluca mi va in strano, vuole mancare dalla luce, hai detto. No, veramente sono sicuramente addormentato, ma anche in maniera molto, molto veloce, proprio che non me lo fa quasi mai. Dici, quando sei stanco te lo fa, di colpo crulli, blu, non manco di nabizza. Che vuoi fare? Sì, già ti hai fatto la mano la notte avanti, no? Cosa? Ma lei ti ha fatto la notte, glielo che ti sei addormentato, ho fatto la notte prima, no? No, ma negativo, il giorno. Vabbè, magari sei stanco. Stare in piedi non è che sia molto bello, io lo so, boh, la dura del riunione. E ci sarà gente anche da Gumbatà in Chibi, no? Allora, quello si vede, dromedici. Negativo, lui, cambiano le canale, tu cercando qualcosa, io sono anche spegnendo. Ho detto detto, ci sarà gente prepotente che vuole entrare lo stesso, che non può entrare, no? No, ah, è buia. Sì, sì, è buia. Questa gente cosa rivedi? Se insiste e cosa rifatti? Dite no, per colpire si accomodi, non può entrare, eccetera, eccetera, pure con le mani nei furti. No, già io lui con le più volte maniere, lo invito per capire cosa fa te. Non è più volte che lo metto con i russi e basta, la politica spaccato di così russi, va bene, e poi dice per i carabinieri, già non c'è niente. Vabbè. Ma purtroppo ce n'è sempre più potenti, tanto nei truffi, anche facendo servizio ambulanza per potenti nei truffi, ma a gogo. Sa chi mi deve pulsare io? Facendo servizio a San Gavino, una volta questo qui ha tolto la scusa che gli si è fermata la macchina, io ho chiamato i carabinieri, i vigili urbani, lo sai? A chi sei voce in mezzo alla strada con la macchina e cosa faceva? Il gruppo invece di salire sopra i punti dove doveva salire, sullo spazio di traffico e cosa, era costretto ad andare in mezzo strada, capito? Perché c'era questa macchina che scorgeva e lui per cortesia se la poteva spostare da lì, che i gruppi non potevano passare in mezzo alla strada e farsi investire, perché lui aveva messo la macchina in così, ha detto che lui non le spostava, se mi piace cassetto. Ho preso, sono andato e ho fatto vedere il chiero, ho preso, ho chiamato i carabinieri e i vigili urbani. E dice che gli ha detto che la macchina era rotta, ha detto ma cosa è rotta, non è voluto spostare, cosa è rotta. Dice gira la chiave, no, che no, che se non giro la chiave non so che cosa succede, poi non parte più. Alla fine ti ascolti, metti in folle, la sposti là, il carabiniere, aiuto, non ci rompa le scatole, stava già incazzato. C'è per esempio che sembra potente. Beh Gianluca, non si vede che dal televisore, chi so che non va. Ma va, non è il secondo stato, c'è che il programma come si applaudi, come si farà, è fatto così. E mi interessa te, chi so di Max, lui, è focus. Ma un po', boh, io non lo sto più guardando, sto guardando poco, molto meno, prima ero più fissato. Perché sono un po' ripetitivi, C'è anche un altro di programma che mi ha fatto vedere mio figlio, ma non mi entusiasma come di Max. E comunque sono molto ripetitive, rifanno sempre certe cose che ho già visto. Mi piace quello dell'avventura, quello lì è bello. E quello l'ho utilizzato anch'io l'altro giorno, mi sono fatto Gianluca 12 km a piedi l'altro giorno. Gianluca? Ah, sì. Cosa? Dove dici? Negativo già, sì, così. Sto fanno qua e guardando qua la TV. Domani mattina, alla volta. E via. Chizzo? Chizzo. Vabbè. Ma la sera sei libera là. Devi essere contento di quello, ti fa un bel riposino. E la prima cosa è quella riguarda un ristoro, diciamo, di ricaricare le pile. Anche io, guarda, se mi manca il riposino da poco, non sto male, io sono abituato da piccolo, però. Mamma diceva, mamma è stanca, io venite tutti a letto, e dormite, o no, però dovete stare qua, non dovete fare casino. Ci addormentavamo tutti nel letto con mamma e facevamo macchiuccia e poi quando ci alzavamo facevamo le cose, però intanto si riposava quella mezz'oretta, tanto per darsi un po' di carica, poi magari la sera riattirava a fare tutto gancio. Io vuol dire molto già per un servizio di piano piano, se non si aspettate. Per cui ci ha colcato, uno mi piace rilassarsi, da questo al fresco. Mamma mia, io il caldo lo soffro troppo, peggio del freddo. Però è sopportabile, il caldo come fa? Perché io sono arrivato a bruciarmi in terra, mi chiamo. A casa c'era una fornace, non si poteva stare con le finestre spalancate, entrava più caldo che fresco. Non sapevi più cosa va, condizionatori attaccati, un caso da gribà. mia mamma mi sveglia a Venterra, dormivo in terra, come mi trovavo a Venterra, subito mi addormentavo. Quella, ma che di visio, io non so dove. Non so mai, non so scavo. Non con lo caldo non riesce a dormire, se gira che ti girano le tuoi, ti si attaccano, tra sudore e cose. Mamma mia! Però un bel di notte sono andato pure a piccare, ma ci ho fatto la notte. E dopo la mattina, quando era il riposo di domani, andavo a pescare. Non passavo la notte al fresco, così almeno stavo bene. Beh, Gianluca. Io me ne sono andato a letto. Cioè, sono già a letto, ma mi drommava. Buonanotte, dai, buon lavoro per domani, ci sentiamo. Ma vedo che stai sicuramente guardando il televisore e cosa, non vuol disturbarti. Ci sentiamo, Gianluca. No, non è la fisa, io mi... Anzi. Vedete, visto che stavo così... Ma a fronte dei programmi già tutti iniziati, a dovuto così, da qualità, oramai la prima, il programma della prima serata sono andati via, per la seconda serata vuol dire, cioè, iniziati fino adesso alle 1:30, poi non è cosa la metà a fine, allora è mezza. E nel mio televisore è quello grande, quello a 41 pollici, c'è internet, vado su internet e scarico un film e mi guardo il film che voglio, capito? Ah no, è quello che è. Se non c'è nulla fai così, capito? Prendi, vai su internet e ti scarichi il film e ti guardi quello. Molte volte lo facciamo. I 3D non è che ne usi molto perché costano troppo, prenderli a noleggio, fanno solo cartoni animati, è poca roba che fanno i film veri e propri. Quelli tutti i cartoni animati, c'è Coso, l'uomo ragno, tutti questi cosi. Non è che li hai guardato molto, li ho guardato uno di avventura che era molto bello. Addirittura sembrava che uscisse la neve furia, fuori dal televisore e ti andasse addosso, è allucinante. È un bel effetto, è come il cinema. Ma lo scarichi da internet, te lo paghi? No, cosa paghi? Lo scarichi dove si scarica il film. Lo metti sulla pennina e poi metti... oppure lo puoi fare anche direttamente. Lo puoi fare... solitamente lo facciamo dal computer, facciamo la pennina e la pennina c'è una retrata USB, il televisore, metti la pennina e te lo guardi. Oppure lo puoi fare al televisore. No, ecco, capito. Scaricando e guardando, capo. C'è un bel di cose col televisore, un computer proprio dove tira la tastiera, tu entri su YouTube col video, maxi video, allucinante, scrivi, fai tutto quanto, c'è la tastiera. Sono belli, ma costano anche un po'. Io già mi sarei accontentato il televisore normale, non me ne fotti nulla sinceramente. A me piacciono le cose semplici, non mi piace tutta questa cosa elettronica di avanguardia, ma è più che altro per i bambini, per i ragazzi e per mia moglie che sono tutti all'avanguardia con la tecnologia, telefonini, gli su tablet e via dicendo. Ma non mi era fatto perdere la mano, la stessa cosa, capito? No, ma diciamo che a me c'è il Galaxy che mi piace il telefono, non è che si trova bellino. Sì, ma per me lo so fatto pratico, capito? Perché io sono una persona che lavora troppo con le mani, con le cose, capito? Ma non so neanche giù, almeno solo il telefono che fai. Ce n'era una addirittura del televisore, Gianluca, quando sono andato a comprare quello mio, che tu gli davi i comandi a voce e aveva il comando vocale. Ricevi Rai 1 e si metteva sul canale. Che vuole di tutto? Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti cose allucinanti, sono rimasto a bocca aperta. È come al quadrato che ho visto questa macchina enorme, sai, la domenica vanno a sfociare le macchine d'epoca, cosa c'è? Questa macchina deve essere americana, c'è il volante come un aereo e il computer di bordo. E io ho detto, cavolo che bella, sembra un aereo. E mi ha risposto, tu hai molta fantasia. E ho rimasto secco. Esatto, era la stessa macchina. Esatto, è quella lì. Il volante è come l'aereo, a mezza luna. La console, tutto qua, io l'ho vista proprio dal vero, da vicino. C'era uno che l'ha comprata a Sassi. Santa pagata. Grande. Americana, no? La cosa è la... una punta che ce la sia. Una punta che ho la... una Chevrolet, ma non lo ricordo. Ma non so, una nuova Chevrolet. Una punta che ho la sia, ragazzi. Sì. Facevano quel modello lì, anche nera, con l'aquila sul cofano. C'è un bel racconto. Una bella macchina. Adesso mi ha detto che peccavo le cose di fantasia, ma te ne immagini una macchina che ti risponde sui... Io l'ho detto così senza sapere che parlava, mi sono rimasto seccato, ma che cazzo parla? C'è la macchina dice che parla, ma vai, e come no? E gli hanno detto un'altra cosa e ha risposto, ma sto buco, ma c'è la macchina parlante. No, ma vabbè, sta come il cavolo è però, cavolo, veramente troppo cavolo. Rispondere, cioè tu vedi questa console, sembra un aereo, sta per istruire, ricordo, e ti risponde proprio, non è che ti ripete ciò che dice, cosa, ti risponde. Cioè, sono rimasto così, a bocca avvisa. E ho detto poi viene qualcuno con macchine particolari, e Porsche, Bolton e Ferrari. Va bene, che raduno. Diciamo che più che altro sono le persone che hanno soldi, a senso di cose, che hanno questi macchinoni, li invece sociali, davanti alla gente, capito? Sono... Lamborghini, Ferrari, tutte macchine così. E ci sono dentisti, questa gente qua, ma che c'è su? E allora, ma questo è un numero che va. Ma vado al bar, si prendono il caffè e cose, le metto tutte in fila, capito? Come fanno a produttore con quelle moto d'epoca in quel bar, nel bar London. No, le lasciano lì per vedere la gente, si avvicinano a vederla, a guardarla, a loro fa piacere, là, secondo me fa piacere che tutti le guardano, la loro macchina. Dico di Luguri. Allora dico, non toccarla, quella sono belle, mamma mia. Di Ferrari ce ne sono due sempre. E non è tutte le domeniche, ogni tanto lo fanno, lo facevano molto spesso d'estate. Adesso poi vedi le macchine, le moto d'epoca girando attorno al quadrato, per ridere. In lui, Lambrette, Vespe, Guzzi, di tutti i colori. Hanno portato un Guzzi una volta che c'aveva il volano come l'affettatrice di quelle antiche rose, te le ricordi? Cos'è morto? Un Guzzi, e c'aveva le marce, invece che nel manubrio ce le aveva a fianco al volano. Il Falcone 500, quello lì, l'affettatrice si chiama. E poi l'affettatrice, a me pare tre marce. Sì, le moto Guzzi e il Falcone si chiama di nome. Come si fa? No, ma fa forse non è Falcone, Falcone non è d'epoca come quello lì, quello era divisi con la forcella senza nemmanco la mortizzatore della forcella, i siti triangolari, che sono le fotografie di chissi antichi, ma ha fatto bene, nuovo. E guarda, come quello qualche modello certo di tante caratteristiche al Falcone, che si chiama un altro modello, capito? Falcone è più recente, ce l'avevano i vigili urbani un po' di tempo fa, qua a Sassari Falcone, che erano nere e bianche, te le ricordi? Ma tu questa è la bravia, ve lo devo prendere. Poi sono passati al CISO con il produttore, tutti e due. Sì, è vero. E allora, sono venuti qui, hanno scambiato le radio con i Falcone. Sì, però è l'ultimo che credo che hanno scoperto quelle nuove, la verrebbe tagliata. Perché si sente la vita Francesco Ruggio, il vigile, che l'ha usata a lui, allora ha avuto partecipato e se l'ha avuta bruciata. Ah, se l'ha presa lui. Ma nuove quali? Perché adesso c'hanno tipo la moto da cross, fatto così. Due c'hanno, la precedente è ancora pressione, che erano sempre quelle mastodontiche. Ah, ho capito qua. Dopo ci sono belli vigili nuovi adesso. Ah, c'è la roba nuova. Quasi tutti in pensione sono andati. Tutti giovani, guarda. Sono tutti giovani, è vero. E è rimasto qualcuno, quello che era il comandante, ci è rimasto. E poi chi di quegli anziani? Boh, non mi ricordo più che ci sia nessuno. Non ho più visto nessuno di quegli anziani. La linea fa poco, quindi fa cosa davvero. degli sci riguaciucci. Sì, va impregnato. E anche lì, con la storia dello spostamento che hanno fatto nel comune, magari qualcuno l'hanno mandato in pensione. Sì, se no lo vanno, non gli vada niente, no. Allora, contributi vanno. Sì, ma il comune penso che vadano prima, no? Sono statali, sono comunali, cioè. No, non so, guarda come la... quella retributiva di loro, se anni, anche lì secondo me c'è... sono state delle cose che sono cambiate anche lì, ecco, queste parole. Magari avevano l'età, non avevano gli anni, oppure viceversa. Non lo so già com'è. E di dove anni va? O per gli anni, o per... ecco, basta. Quando tu hai o gli anni, di contributi, puoi andare in pensione, non è che devi fare tutti e due impari, boh. Io ne hanno applicato il possibile, musica, ma non è bruciato molto, che non si ne vuole. E allora, già succede così, figurati se aumentano ancora le tue pensionistiche. Vabbè, purtroppo. Ah, ma c'è anche declassato, c'hanno declassato le altre nazioni, non siamo più, siamo passati in secondo ordine, là. Come se non si dice da formarsi questo governo è un casino, e qui ha detto che se loro non riescono a fare le cose succede un bel casino in piazza. Ma la gente cosa diceva? Ci vuole la guerra civile, ci vuole questo, ci vuole l'altro, ci vuole qualcuno che lo faccia veramente. Io non sono per la lotta armata, tutti gli sigoni, no, a me non mi piace gli sigoni, però si devono decidere a fare le cose concrete. Adesso bisogna che voi sia niente che abbia la serietà di fare le cose bene. Vediamo che cosa cambia. Può cambiare solo se si riesce a far una franca la Sardegna, allora sì, allora cambia davvero. Ma non penso proprio. Troppo bello sarebbe un sogno. E così la Sardegna è un paradiso vivo, anche tutti vanno nei nomi a fare imprenditori, a piazzarsi questo, a far mettere l'altro, a aprire posti di lavoro, eccetera. È normale, no? Non pagando tasse, non pagando tutte queste cose, chi è imprenditore è un 13 per loro. E Gianluca, io ti saluto, là, se no domani non mi dici da qualcuno buco. Buonanotte, a tutti, anche gli ascoltatori.